Conduce la Zanzara alla radio insieme a Giuseppe Cruciani, Vittorio Sgarbi o David Parenzo? Vittorio Sgarbi. No. Sei un criminale, capra come nessuna, incapace e ignorante. Criminale! La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Quando la sera mi vedi sorridere davanti al cellulare mentre indosso i miei auricolari, non sto chattando con la mia amante su WhatsApp, né sto navigando su Facebook, ma sto ascoltando il podcast della Zanzara. E quindi non mi devi rompere il cazzo! Chiamate quel cialtrone, per favore. Dimmi te, se uno alle 18.34 deve inseguire il signor Parenzo. Inseguire per ogni dove. Sta smarchettando da qualche parte, eh? Marchette ben pagate. Questa è una vergogna! È una vergogna! Vai, si parte lo stesso! Adesso arriva quel cialtrone. Allora, Brunetta, ragazzi, Brunetta. Un caso umano ormai, un caso umano. O un caso umano oppure un format. Ogni volta che si presenta l'occasione litiga con un intervistatore perché si sente in disparte, perché interpellano qualcun altro e dice lui che l'intervista era concordata in solitaria, perché lui è professore, onorevole, presidente. Sentite, con una giornalista che si chiama Pinna, Sky TG24. Mi faccia tutte le domande che vuole, perché sente l'esigenza di andare da De Marco? Non è che sento lo l'esigenza, dopo, noi non abbiamo un format dopo, preconfezionato. Quando comunque, vuole, va bene, è va un bravissimo collega, okay. De Marchis. Va bene, rimango da lei. E allora, io la ringrazio, lei è molto gentile, mi dica, io la ringrazio, favore, lei Brunetta, è molto gentile. Brunetta, per favore, veramente, tanto siamo due persone civili, immagino, no? Quindi rimango da lei. Mi chiami magari, Presidente, mi scusi. Dica. Mi chiami magari Presidente Brunetta, Onorevole Brunetta, ma Renato. Guardi che questo non professor cambia, Brunetta. Non è che io ho meno rispetto di lei se non Brunetta la chiamo brutale, Presidente. Un po'. Ma non è che no, ho meno non cambia assolutamente niente, le chiedo un po' di gentilezza, Ma che vuol dire le chiedo un po' di gentilezza? Voleva dire far dire una cosa all'altro intervistato, De Marchis, che Brunetta mi fa impazzire, secondo me lo fa apposta, perché sa che le cose vengono riprese, perché poi le finisce sulle home page, perché altri dicono bravo, bravo, questi giornalisti sono tutti di sinistra, sono tutti del PD, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto la interrompe e dice mi scusi, non era un dibattito. Che non è il padrone nella discussione, anche Brunetta, se si crede mi perdoni un istante, il padrone dell'Italia. Coinvolgo io spero che questa assemblea democratica, De Marchis, che è collegato con noi dalla assemblea del PD, De Marchis. Ma mi scusi. Rimanga con noi, rimanga con noi. Sì. Mi scusi. Dica. Mi scusi. Dica. No, mi scusi. Pronto? Io la sento. Non era questa, lei doveva farmi un'intervista di un quarto d'ora, era un dibattito. No, ma gliela faccio un'intervista da un quarto d'ora, era solo un tentativo di sentire anche De Marchis su questa discussione. No, rimanga, io rimango, per ampliare un però po'. Non era un dibattito, mi scusi. Mi scusi? Io la sto ascoltando, prego. Non era un dibattito. Per favore, mi tagliate i mi scusi. Quante cavolo di volte l'ho detto mi scusi? 7, 8, 10 volte. Mi scusi. Ah dai, su. Non che debba essere un dibattito. Non era un dibattito. Finisca la mia intervista e poi vada dal bravissimo collega De Marchis. Vada dal bravissimo collega De Marchis e faccia le domande che ritiene il collega De Marchis. Volevo semplicemente avviare la discussione in diretta perché fosse un pochino più movimentata di un quarto d'ora. Niente Eccomi, di più sono qua. Brunetta per me lei può no, rimanere semplicemente, anche più di un lei semplicemente d'ora, sta ma... cambiando lei semplicemente sta cambiando le carte in tavola. Se vuole farmi un'intervista di un quarto d'ora, bene, se vuole 5 minuti, come volete voi. Ma non era un dibattito. Se era un dibattito bastava dirlo. Allora, Brunetta, presidente Brunetta, grazie per essere stato con noi, grazie per averci dedicato questo tempo e buona domenica. A presto e non si arrabbi. Grazie a voi, grazie a Sky e siate un po' meno renziani, per favore. Ma non lo siamo, anche perché noi diamo Renzi ormai voce è andato tutti, in disgrazia, Brunetta, non conviene. Ma assolutamente è stato sì, assolutamente volte, sì, lo deve ammettere. Assolutamente ma non è sì. Vero, auguri ma non è vero. A Sky, auguri a Sky, auguri a Sky, buon Natale, certamente se non ci canale prima, renziano. Ma secondo me ci sentiamo prima. Arrivederci. Allora andiamo all'assemblea PD dove c'è Goffredo De Marchis. Vabbè ragazzi, torniamo alle cose di Roma, vai, i Five Stars che sono un po' nella cacca per quello che è successo a Roma, con Di Maio che vuole querelare tutti i giornalisti perché gli attribuiscono delle frasi su Marra. Diciamo, dicono i giornali, i retroscena degli ultimi mesi che è stato sempre un sostenitore di Marra, uno che diceva che Marra era tra virgolette pulito. Lui dice: no, io non l'ho mai detto, i giornalisti mi attribuiscono queste cose, adesso sono costretto ad andare dall'avvocato. Cioè, è un movimento come i 5 Stelle che ha vissuto di retroscena di giornali, ha attaccato chiunque per qualsiasi cosa, magari anche nel giusto, eccetera, che se la prende perché la gente, i giornali o i giornalisti, i conduttori, eccetera, eccetera, e che cosa fanno? Lo dipingono come il protettore di Marra. Ma chi se ne frega? Ma è normale che accada questo, perché la gente viene a sapere che c'erano due o tre fazioni al comune di Roma tra i grillini, uno dalla parte di Marra e l'altro contro Marra. No, non si può fare. In tribunale, ma è una cosa veramente ridicola. Comunque il primo luglio, il signor Di Maio diceva, a domanda esplicita su Marra, rispondeva in questo modo. Non è che sia una risposta diretta su Marra, però nemmeno ha detto, vabbè, questo è uno della passata amministrazione che ha lavorato con Alemanno e dunque bisognerebbe scartarlo. No, non l'ha detto, sentite. Condividete la scelta di un ex alemanniano come Marra? Guardi, io penso soltanto una cosa, chi ha distrutto questa città non fa parte della nostra squadra, chi in questi anni ha dimostrato buona volontà ed ha competenza e storia personale all'interno della macchina amministrativa ci venga a dare una mano. Di Battista, Dibba, siamo ingenui. Alle volte siamo ingenui, sì. Spesso onestà e ingenuità camminano assieme. Io penso che il disonesto non sia mai ingenuo. Poi dice tutto il movimento chiedeva alla Raggi di allontanare Marra, ma lei si fidava. Tutto il movimento, ve lo garantisco, ha suggerito, ha chiesto con modalità diverse appunto a Virginia di allontanare questo soggetto e lei, la verità è che si fidava di questo personaggio, si è sempre fidata. Allora, poi si discute di una battuta di Roberto Giachetti durante l'assemblea del Partito Democratico. Adesso non vi dico nemmeno la premessa di cosa si parlava, ma Giachetti ha detto a un altro dirigente del PD che si candida a fare il segretario, che si chiama Speranza, che ha la faccia come il culo. Non vi racconto nemmeno perché gliel'ha detto, gli rimproverava un atteggiamento incoerente, chi se ne frega, cose del politichese che non interessano a nessuno, legge elettorale, il Mattarellum, tutta questa discussione surreale che c'è adesso, totalmente surreale. Cosa dice Giachetti? Dice: hai la faccia come il culo. Ora, ma vi pare normale che si discuta su una frase così semplice? Cioè Giachetti dice una cosa, la faccia come il culo, la faccia di bronzo, che non è un insulto. Significa semplicemente essere contraddittori, secondo di lui. Avere la faccia come il culo è un'espressione anche romanesca, se vogliamo, no? Giachetti. Ho cercato lungamente in questi minuti quali fossero delle parole, diciamo almeno in francese ortodosse, per rappresentare cosa io penso. E mi dovete scusare, l'unica cosa che io penso è che Roberto Speranza hai la faccia come il culo. Avete la faccia come il culo. Poi si scusa, Robè, però, amico mio, dai, ma come, ma perché ti devi scusare? Non c'è ragione per scusarsi. Dopo va nelle trasmissioni, anche stamattina dalla Merlino, a dire no, non è un'espressione che bisogna usare, è una battuta romana, non è nel mio stile, mi dispiace, mi è scappata la frizione. Ma perché? Non hai insultato nessuno, ha la faccia come il culo, significa avere la faccia di bronzo. E giustamente all'inizio aveva detto, cioè, la parola culo è sdoganata in tutto il mondo. Cioè adesso uno si deve spaventare per la verità. Cioè ha detto una cosa vera. Secondo lui un'altra persona, in questo caso Speranza, la faccia come il culo. E qual è il problema? Tutti l'insulto. Ma quale insulto? La parola culo è sdoganata in tutto il mondo. Adesso soltanto nell'assemblea del PD, che è così affettuosa, non si può dire la parola democratica. Se eri la Camera non avresti mai consentito, sì, una cosa, vabbè, del genere. Allora ritiro. Di conseguenza chiedo scusa. Ma comunque una riunione di partito non è le istituzioni, eh? Una riunione di partito pubblica non sono le istituzioni. Cioè è un partito che si riunisce e bisogna dirsi pure in faccia certe cose, no? Per cui è normale utilizzare. Poi però va nelle trasmissioni Roberto e dice, Giachetti dice, mi è scappata la frizione. Al netto del fatto che, come le spiegavo anche brevemente a Roma, c'è una battuta che dice mi è partita la frizione, nel senso a me questa cosa mi ha mandato al manicomio. Io non voglio sentire il traffico, io sono il traffico. La Zanzara. Mi scusi? Allora ragazzi, poi dice che bisogna smantellare i campi Rom. Bisogna smantellarli ieri, oggi, subito bisogna smantellare. Voi sapete la vicenda della cinese, no? La cinese Zhang Yao, quella cinese travolta da un treno mentre inseguiva tre scippatori con la borsa. Quei tre scippatori venivano da un campo Rom, lo stesso campo Rom che una volta accolse Salvini, che può essere naturalmente criticato per quello che fa, ma non potevano accogliere chiunque, al grido di vattene fascista, razzista. Quei tre Rom arrestati venivano da quel campo Rom totalmente incontrollato, da cui si può scappare, fare qualsiasi cosa in qualsiasi momento, accanto alla ferrovia. Questi qua, questa qua inseguiva i suoi rapinatori ed è finita sotto un treno. Adesso questi qua sono indagati per vari reati, forse procurata morte, non so come cavolo si chiama quel reato. Ma insomma, ma perché non lo smantellano questo campo Rom a via Salviati a Roma, da dove venivano questi tre delinquenti che purtroppo questa cinese ha inseguito? Ma io ho in testa solo un personaggio, Umberto, fatemi sentire questo WhatsApp su Umberto, vi prego. Ragazzi, Umberto è stato il meglio pezzo della Zanzara da quando l'ascolto, e saranno 5 anni, 4 anni, è stato il meglio pezzo che abbia mai sentito. Allevatore 71enne, spara un nomade per difendersi dai continui assalti, dalle continue rapine. Poi nasce una discussione incredibile, 10 mesi di arresti domiciliari, poi viene assolto per fortuna. Sentitelo, era venerdì sera. Pronti? Umberto! Mi dica! Come andiamo? Tiriamo avanti! Ce la siamo cavata o no? Beh, penso di sì. Anche se poi quanti mesi hai fatto in galera? 10. Cioè in galera. ai domiciliari, comunque uguale. Sì, ma ho lavorato più del beduino. Comunque sì, 10 mesi ho fatto. Ricostruiamo un attimo quello che è successo. Sì. Tu hai preso a fucilate un romeno, giusto? Sì. Ma era entrato in casa, che aveva fatto? È dentro l'azienda, qui sì, si sta a portare via... Ma che roba si portavano via? Allora si è portato via polli, prosciutti, sì. Roba in officina, ciò che ha trovato. Sì. Naffeta ai trattori. E dunque che è successo concretamente? Praticamente è entrato dentro qui a un magazzinetto che dove sto io adesso praticamente, io ho le pecore, no? Sì. E poi si è preso sto filo di rame che lui si è incollato, è venuto su, se l'è preso per spalla e andava giù a portarsi via stagnelle, no? Io ho teso i casini, sono venuto su. E gli hai sparato? No, praticamente questo, quando gli ho sparato per aria la prima volta, non è scappato via, è venuto verso me. E allora lui, gli hai sparato? Gli ha sparato addosso. Non ti penti per niente di avergli sparato addosso? Ma per carità del Signore, mi ammazzava tanto. Ma lui che è rimasto? Invalido? Che è rimasto? No, lui è andato all'ospedale perché... Lui in ospedale? Sant'Andrea, è stato lì 2 giorni, ha firmato e se n'è andato. Lui in ospedale libero e tu agli arresti domiciliari per avergli sparato. Capito? Sì. Beh, gli ha sparato però. Ma che c'entra che gli ha sparato? Gli ha sparato, ragazzi. Ma che c'entra? Ma fatto... Ma ragazzi belli, gli ha sparato però. Ma che c'è? Tu dici uno che ruba le pecore e che vuole rubare le pecore. No, voglio dire, la vita umana, l'ha detto lui prima, scusa. La vita umana varrà di più di una pecora, con tutto rispetto per la pecora. Vale molto di più, ma quelli educati, bravi che rispettano gli altri. No, vabbè, comunque adesso amico mio, mi dispiace, ha fatto il calcio, tutto quello che fa. Lei però ha sparato a una persona. Ho capito, quello gli stava a rubare pecore, è la settima volta che gli rompe le pecore. Ma ho capito, ma ci sarà una proporzione tra la pecora e una vita umana. Un conto è la vita umana, che va salvata sempre, un conto magari... Comunque ragazzi, fate quello che volete. Che rispetta il suo simile. Ma non c'è dubbio che quello è un ladro. Ma non c'è dubbio, quello è un ladro e un criminale e deve andare in galera perché è un ladro e un criminale. Ma un conto è dire che un ladro è un criminale. Ci ha sparato a sbagliare il signore. Ma no, ma mi pare di. Ma lo dice la giustizia, mica io. Ma no, che giustizia? L'hanno assolto, l'hanno. Eh? Alla fine l'hanno assolto. Alla fine. Hanno dimostrato che alla fine che era legittima difesa. Però tu non avresti sparato. È sbagliato sparare per una pecora. Cioè, diciamo, la difesa. Ma per quello la pecora è la vita. Per il signore, per Umberto, la pecora è la vita. Pecora. O no? Se mi aggrediscono nei miei. Aspetta, che ce fai con la pecora? Per me è pane, tutto, formaggio, ricotta, quello che mangiate, carne, tutto. Ma c'ha ragione, per quanto tempo non hai potuto lavorare in quei 10 mesi che sei stato agli arresti domiciliari? Quanti soldi ci hai rimesso? Ma io non è che voglio adesso esagerare, ma intorno ai 20.000 euro io ho rimesso. Ma comunque tu ce l'hai, i romeni te stanno un po' sui coglioni, a te sono tutti un po' ladri, diciamo. No, comunque guardi, io da quando ho sparato a quello non ci ho avuto più rogne. Prima non separavano, tutte le notti era un problema. E invece adesso hanno capito che tu spari? Hanno capito che spari. Adesso mi temono un po', perché poi bravo, quei delinquenti che stavano con lui, io ho saputo dopo, sì, che sono delinquenti proprio, quando cercano di scappare quando mi vedono. Ma certo, perché questo qua si è mostrato col fucile, per la prima volta ha detto ragazzi qui se spara, se mi rompete ancora i coglioni spariamo. Secondo il cognato, che c'è un cognato, sì, qui. Cioè, il cognato di Vede Romero, questa è una storia enorme. Romania. Cioè? Deve fare 6 anni delle carceri in Romania, che non lo trovo. Pure deve fare 6 anni. Io per falso nome, a me mi ha detto sempre che si chiamava Francesco, invece non è vero. Cioè, lui è condannato in Romania. È un criminale, dai, è un criminale di vita. Questo è gravissimo. 6 anni in carcere in Romania e gira in Italia con un altro nome. Ho capito, è un criminale incallito. È il fratello, un fratello. Massimo, un fratello, anche tutta la genere. Ma tutta la famiglia, ma sarà una famiglia di briganti, ma cosa devo fare io? Ma se non mi fate parlare. No, è morto folgorato con i fili dell'alta tensione. Ma tragedia, come Feltrinelli, una tragedia. Vabbè, ma che cazzo c'è, perché era ladro pure lui, magari o no? Sì, no, sono tutti ladri. Le sorelle? Fanno le puttane, tutte e due. Pure. Tre, ma che bella famiglia, però. Beh, stupendo, sì, però. Ma lei come fa a sapere tutti questi elementi? Le sorelle puttane e i fratelli ladri. C'è un notaio in quella famiglia o no? Un ingegnere, un architetto, ma anche un lavoratore onesto. In quella famiglia lì ce n'è uno buono o no? Uno. Io conosco un amico su all'Aquila che lui li conosce un po' meglio pure, di me, perché nessuno è legittimo. Ma scusa, dove fanno le puttane? E la madre? E il padre? Il padre ricaccia la legna in Romania, però dice che pure lui non è tanto per la quale. Scusami, Umberto. Vabbè, è una famiglia ma così. Le puttane dove fanno le puttane? Che ti frega, dove fanno? Che dettaglio è? Che te ne frega? A Vieste? A Trieste? A Trieste, in Puglia. Ma come cazzo fai a sapere tutte queste cose? Ma perché? Ha fatto un'indagine sulla famiglia. Adesso glielo dico io, quell'amico dell'Aquila, siccome è scapolotto... Se trombava una di quelle. È importante questo, il tuo amico dell'Aquila si trombava... È scapolotto. Vabbè, scapolo, anche se fosse sposata, amico mio, devi fare... Tu sei sposato? No, a parte, no, è scapolo lui. Tu sei sposato? Tu sei sposato? No, non è sposato, no. No, ma tu sei sposato? Io sono 70... Sì, sono figlio, sei... io. 42 anni. Ho capito, ma ogni tanto qualche scappatella pure tu con la puttana romena la farai o no? No. Poi no, tu non fai niente, vabbè. Te lo dico. A te non ti conosco, non te lo dico. Vabbè, allora lo fai sicuro. Allora, il tuo amico dell'Aquila. Aspetta. Se soffre un po' di mancanza, mandatemela comunque. Te la possiamo mandare lì in azienda? E come no, però indirizzo? Non è quella di strada. Indirizzo? No, di strada. L'indirizzo lo trovate. Io dov'è l'indirizzo? Vabbè, ti chiamo col telefono, ti faccio chiamare col telefono. Allora, però il tuo amico, l'ultima curiosità è questa: il tuo amico dell'Aquila che conosce la famiglia di Romeni, praticamente scapolotto, abbiamo detto, andava a Vies e se trombava una delle sorelle romene? No, stavano all'Aquila prima. Ah, prima stavano all'Aquila e mo stanno a Vieste, stanno. E così mi hanno detto. Così ti hanno detto. Vabbè, la sorella. Sì, ha lasciato perdere marito e figlio e è andata laggiù. Ma non ho capito, aspetta, Parezzo, c'è un altro dettaglio. C'è un altro dettaglio. La sorella sposata di chi? Del romeno criminale? Del romeno. Del romeno che gli hai sparato te, no? Sì. E ha lasciato perdere marito e figli e è andata a fare la puttana a Vieste. È scappata via, è andata laggiù. A fare la puttana? Sì, fa la pugnotta, il marito è andato giù. L'ha trovata, ha fatto finta che. Ma a me frega niente se me la storia di questa gente. Ma me frega niente. Partiva, invece poi sei ritornato e è andata lì e è andata a aprire la porta nuda. Però posso dire, escono. E allora? Escono dei dettagli ogni minuto che passa in più. Escono dei dettagli che sono inquietanti di questa famiglia. Cioè, la famiglia, come si chiamano di cognome questi qua? Non lo so di, guardi, la pronuncia non la so. No, ma più o meno, come si chiamano? Ma lui. Io mi ricordo di Stoian. Vabbè, ma è uguale, tanto è tutti ma uguali. Se faceva chiama Francesco, pensi? Francesco, vabbè. Ciao, beh, ciao. Ciao. Umberto for president, Umberto e tutti noi, cazzo! L'utente da lei chiamato non è al momento raggiungibile, sta ascoltando la zanzara. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. Di faccia a faccia, le inchieste dentro la notizia e gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema Digital Radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla Digital Radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. La zanzara. Ho appena avuto un bambino e mi hanno suggerito di ascoltare Mozart per bebè per farli dormire. Quindi sono andata su YouTube, ho trovato la musichetta, ho iniziato a farli ascoltare, mio figlio si è ribellato piangendo e io gli ho detto: hai ragione, che cazzo ce ne frega, noi non ascoltiamo queste cose, noi ascoltiamo la zanzara. Ma no, dai, che non è vero quel figlioletto! Non è vera quella voce del bambino in sottofondo, caro Parenzo, alla buon'ora! alla buon'ora. Un momento. Ho sentito che nel corso della giornata una nota azienda italiana avrebbe mandato, mi dicono. Alcuni panettoni recapitati alla sede. Molto bene. Allora, abbiamo deciso con il comitato centrale del partito e con il direttore Roberto Napoletano. Ma non è vero. Occupare militarmente quella azienda e con una forma di esproprio proletario, questa azienda che ha mandato i panettoni. Ma perché? Scusa, sono stati bravi, hanno mandato i panettoni, perché dovevi... Perché si chiama regalo in debito, e quindi noi occuperemo quell'azienda e opereremo anche quello che negli anni 60 si chiamava il sequestro dei manager. Volete sapere come funziona quella adorabile pratica? No, è meglio di no. E gente come voi negli anni 60 scappava come conigli. Noi persone come voi li prendevamo a sassate, sempre all'insegna della non violenza, ma a sassate. Scusi Cabana, che ne pensa dell'uscita del ministro Poletti che ha detto 100.000 giovani italiani in fuga dal paese, un bene non averli più tra i piedi? Perché io dico semplicemente che la prima persona da mettere in fuga è Poletti. Infatti lancio da questa ottima radio un appello a tutte le compagne e a tutti i compagni. Ministero del lavoro. Sì. Mobilitiamoci lì, mettiamoci davanti al ministero, non facciamolo uscire, distendiamoci per terra in modo che la polizia, altrimenti detti celerini, non ci possano sequestrare se non sollevandoci di peso. Ricordate che la occupazione del Ministero del Lavoro è un diritto sociale sacrosanto. Ma non è vero, non risulta. Rimaniamo lì, io arriverò a breve dall'Umbria, il tempo di prendere una macchina NCC con conducente, con il vitalizio, e arrivare con quest'ottima macchina davanti al Ministero, soggiornare lì con un grande megafono, come si faceva negli anni 60. Formidabili quegli anni. Allora, Poletti ha dichiarato: conosco gente che è andata via, il ministro del lavoro Poletti riconfermato, conosco gente che è andata via e che bene che stia dove è andata, perché sicuramente questo paese non soffrirà non averli più tra i piedi. Allora, se uno vuole cercare delle ragioni a questa che appare assolutamente una stronzata di Poletti, forse vuole dire non è che quelli che restano sono tutti coglioni e quelli che vanno all'estero sono tutti bravi. Certamente in apparenza trattasi di puttanata, diciamo la verità. Tecnicamente. Se uno dice 100.000 giovani italiani in fuga dal paese, è un bene non averli più tra i piedi, appare tecnicamente una puttanata. Tecnicamente. È vero, è anche vero che questa prosopopea, questa rottura di balle degli italiani che vanno all'estero, dei cervelli in fuga, anche a me ha sfracassato i coglioni. Cioè, non è che quelli che vanno fuori per forza sono vessati, per forza no, perché non c'è il merito e tutto. Però certo, è meglio non averli tra i piedi, magari un ministro non lo può dire, no? Cioè, non si deve dire, in teoria. È inopportuno, visto che il governo comunque mi pare sia già così popolare nel paese, no? Sì, pare un governo che è popolarissimo nel paese. Buonasera, Parenzo, buonasera. Ma non frega niente, a me, di quello che... Me ne frega niente. Proprio, faccio il direttore di Libero, non me ne frega niente. Vabbè ragazzi, dove andiamo? Andiamo a Maria da Napoli, voglio capire che cosa dice Parenzo dalla vicenda dei Rom, sì, di quei visto, Rom pizzicati, ho visto. Pizzicati che avrebbero provocato, diciamo, direttamente la morte di quella cinese che li stava rincorrendo dopo una rapina. Una vergogna, assassini. Beh, che vanno... Assassini, certamente. Beh, hanno... Certo, sono assassini. Ma quel campo Rom, perché illegale, ancora lì? Ancora lì quel campo Rom? Perché ancora lì? Perché Roma è ingovernata? Perché è lì ancora quel campo Rom dove tutti fanno il cazzo che vogliono? Dove sì, la gente va in giro superando le ferrovie, gli steccati, un campo Rom vergognoso lì a Tor Sapienza. Io mi ricordo andò Salvini, ingaggiò una grande battaglia con i signori Rom. Vogliamo fare riascoltare sta roba? Sentiamo. Salvini contro... Perché da poco uno può criticare Salvini in mille modi, assolutamente. Ma ingaggiò una grande battaglia con i signori Rom di quel campo. E chissà che magari tra quelli non c'era pure... No? Noi prendiamo il treno per Auschwitz come prima, così possiamo andare. Lasciamo perdere. Di meglio che sparisce quella razza. Delle domande per devo risponderti sul treno per Auschwitz. Così ma che cazzo quella devo razza rispondere? Di Rom, etnie, devo sparire. Sul treno per Auschwitz. Ili alla Auschwitz. Sotto le ponti. No, non l'hanno mai pagate. Matteo, ma che domande che è normale? Non hai mai pagato le tasse? No! Come faccio? Senza una busta paga, come faccio a pagare la tassa? Ci vuole una busta paga! Quanti non... bimbi vanno a scuola? Ascolta, bambini andavano alla scuola regolare, venivano la pullman, andavano. Tutto quanto. Poi? No, sono stati tutti i bambini alla poi? Scuola. E tutti andiamo, là. Però solo no, che non manca scusa, lavoro. Dammi retta, manca lavoro. È mercoledì mattina. È pieno di bambini, perché non sono a scuola? Perché no, quei bambini ci stavano, non sono vero bambini, alcuni, tutti bambini ci stavano, alcuni sono bambini stati qua malati, per guardare Salvini, sono tutti malati. Certo, scusami. Siamo siamo 80 famiglie. Quanti in totale? Ma 350 persone. 350 persone, quanti lavorano su 350? Tutti. Tutti lavorano? Tutti lavorano, tutti quanti. Tu vivi qua dentro, che lavoro fai? Precario. In che settore? Il grafico. No. Grafico? Sì. Quando hai fatto l'ultimo lavoro? Che cazzo è? Va bene, va bene. Una roba incredibile, il campo Rom a Roma, da cui vengono i signori che hanno scippato una ragazza cinese, la quale poi, per riprendersi il mal tolto, ma chi gliel'ha fatto fare? Magari là, per, no, perché credo che fosse andata a prendere non so dove, insomma, un cospicuo numero di denari, di soldi, e purtroppo è morto. Una tragedia, ragazzi, una tragedia, non ci te da dire. È una tragedia, sì, certo, una tragedia. Certo, è una tragedia. Tragedia. Provocata dai signori Rom, chissà provocata, perché. Provocata, scusa, quello lì è un porto da illegale. Da quattro Rom del campo nomadi. Io non ho mai difeso l'illegalità di un campo Rom. Il campo Rom è illegale. Va sistemata la situazione. No, non va sistemata, vanno smantellati. Questi signori si devono cercare la casa come tutti gli italiani. Ma io non ho mai difeso dato che sono italiani. Non ho mai difeso. E chi ha detto che difendi le legalità? Io una mia dichiarazione. Io ho detto semplicemente qui. Che tu guarda, vuoi. È meglio così. Chiudiamo su questo punto perché non vorrei che poi si alimentassero polemiche. Chiudiamo la trasmissione. Quindi è andata anche molto bene. Mi hanno detto in questa prima mezz'ora che avete fatto delle cose. Mentre la voce di Capanno. Questa prima mezz'ora fatto delle cose straordinarie, delle belle inchieste. No, però Poletti, adesso avremo, torneremo su Roma. Poletti chi? Roberto Poletti. No, di qui, il ministro. Colonna, il ministro. Scusami. Intanto bisogna correggere. Dice un'opinione secondo cui quelli che se ne vanno sono sempre i migliori. Se ne vanno 100.000, ce ne sono 60 milioni. Qui sarebbe dire che i 100.000 bravi e intelligenti se ne sono andati e quelli che sono rimasti da qui sono tutti dei pistola, a parte che non è vero perché 60 milioni è in generale la popolazione italiana. Permettetemi, lui dice di contestare questa tesi. Ora è vero che non è vero che quelli che se ne vanno sono i migliori e quelli che restano sono i più coglioni, su questo non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio, però dire è un bene non averli più tra i piedi quelli che se ne vanno dall'Italia, questo francamente. Aspetta, no. Che c'è qui una persona che ti vuole salutare. Ma chi è che mi vuole salutare avanti? Chi è che mi vuole salutare? Pronti, buongiorno, sono Dario Vergassola. Buongiorno. Oh, signor Vergassola, come sta, signor Vergassola? Bene, bene, sono qua con Parenzo, è un po' indisciplinato. Poi beh, come al solito. Parla male di queste vecchiette e ce l'ha con le vecchiette. Ce l'ha con la signora vecchiette. Rosina, in realtà non è vero. Abbiamo chiesto scusa, anch'io me la sono preso con la signora Rosina, per carità. No, io va sento, però in realtà solidarietà alla signorina Rosina. C'è Stronzi, Cruciani e Parenzo e solidarietà alla Rosina, vuoi dire, Vergassola? Sì, in realtà un pochino così, però insomma, ma poi lo puoi dire tranquillamente. Sì, ci puoi dare. So che da voi si può dire quello che si vuole, quindi ci mancherebbe. Ma altro. Ci puoi dare degli stronzi? Stronzi è una parola. No, scusa, lo dico solo l'altro giorno. Più confidenza. Scusami, Dario, l'altro giorno all'assemblea del PD uno ha detto avete la faccia come sì, il culo ed è venuto giù il mondo come se fosse chissà che cosa. Faccia come il culo è una parola normalissima. No, però detta nella sede del PD in un posto dove non si capiva con chi ce l'aveva. Meno male che ha fatto il nome, sennò ognuno ma c'era una porno. Ah, tutti si sentivano coinvolti. Dice la faccia come. Ma c'era una porno star pure. Certo, ma si sta aprendo il mondo, capito? Cioè, ha detto faccia come il culo di fronte a un'assemblea dove c'era pure una pornostar, la signora Malena. Senti tu, che vivacchi a Roma, diciamo, no? Più o meno sì, bazzichi o meno, dalle parti così, di Roma. Raramente, però cerco di tornare a casa, ma ogni tanto vi becco. Ecco, sì, la Raggi, che ne pensi della vicenda Raggi? La Raggi sta diventando una nebulosa come Andromeda, cioè non si capisce bene la definizione di Raggi, però come notizia si può dare tranquillamente sì, quale? Che diciamo che dal gabinetto del comune di Roma è stato scaricato chi? Marra, cioè questa è una cosa che va detta, cioè, diciamo che è uscito Marra dal gabinetto del comune di Roma. Dal gabinetto è uscito Marra nella Marrana, si può dire, sai che Roma la Marrana. Ah no, non la so questa, la Marrana è praticamente la fogna a Roma. Ah, scusa, io la Marrana. È un po' sta roba qua, quindi insomma ci sono delle cose interessanti e non c'è pace da per nessuno, quindi mi sembra il paese sempre in evoluzione, sempre in fermento e voi sì. Ragionevolmente usufruite. Senti invece Poletti che dice 100.000 giovani italiani in fuga dal paese, un bene non averli più tra i piedi, ti ispira qualcosa oppure è troppo così ancora? Un po' così, però è una specie si mettono in cooperativa perché lui arriva da quelle cose lì, però non pensavo che gli dessero così noi, ma non credo, magari gli è scappata, dai, adesso sai, sono è scappata, cose è così ha detto, poi ha chiesto pure scusa, cioè, ma sì, ma come quando si dice che non tutti dovrebbero votare perché la democrazia è non far votare tutti, come dicono in casa. Secondo me tu un po' ci credi a questa cosa qua. Però sai, dipende, bisogna avere delle affinità elettive, uno dovrebbe, non dico leggere le cose che leggete tutto, però diventerebbe un altro mondo. Però insomma è divertente che in questo momento qua c'è come uno scoperchiamento di sto pentolone e tutti dicono tutti, e la cosa impressionante è che gente come Parenzo che ti dice a te che si sta preparando, che lavora, sai che è un cialtronissimo, non è vero, no, sta facendo le convention, guadagna un sacco di palanche, no, sì, bravo, sì, bravo, hai ragione, come sempre detto te, tra l'altro hai ragione, modera, comodera, va a fare marchette, sì, durante gli orari della Zanzara, spesso in nero, spesso e poi, in nero. Tra l'altro nomina la Zanzara, nomina te, ne parla malissimo, però si fa, come dice, si fa bello di questa cosa qua, io sono quello della Zanzara, vengo a sole 24 ore, sì, cioè, sì. Le cose stupide, e fa queste marchette, è certo che siamo in diretta. Va bene, ciao, ciao, dai. Saluto a tutti, ciao, ciao, ciao, Maria, Napoli, Maria, aspetta, Maria, aspetta. Maria, Maria, Maria, dimmi. Salve, no, volevo intervenire sui Rom. Dimmi. Io ho un'azienda in provincia di Napoli, sì, in una zona industriale, quindi sì, si suppone che le aziende dovrebbero essere un po' più controllate. Io sono quasi a ridosso di un campo Rom, sì, e in effetti ogni 10 giorni, 2 settimane subisco un furto. Che vuoi fare? È così. Non so, all'inizio quando mi dicevano sono i Rom, siccome pensavo che gli altri fossero effettivamente intolleranti. Invece poi è così, ti hanno detto che è così. I carabinieri mi dicono che è così. Io sono costretta, ragazzi, il problema è questo, che non è che i Rom rappresentano il male assoluto, non è che i grandi crimini non sono commessi dai Rom, evidente, però è quello che magari le persone che abitano lì intorno, che sono in quelle zone lì, percepiscono, cioè, sì, che però questi qua rubano. È inutile che dicono cazzate in televisione, no, ma non so. Purtroppo almeno quelli che ho ferma lì. A Parenzo, ma che cazzo stai a difendere i Rom? Quelli non potranno mai morire di infarto perché sono senza cuore. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta La Zanzara. Ho cercato lungamente in questi minuti quali fossero delle parole, diciamo almeno in francese ortodosse, per rappresentare cosa io penso. E mi dovete scusare, l'unica cosa che io penso è che Roberto Speranza hai la faccia come il culo. Avete la faccia come il culo. Guardate, al di là dello scontro che c'è stato, caro Parenzo, io trovo che usare queste espressioni anche in un'assemblea di un partito che non è la Camera dei Deputati o il Senato della Repubblica. Io immaginavo che difendessi, voglio bene a Roberto, figura dei giacchetti, ma è stato inappropriato. Ma che vuol dire? Ma è l'assemblea di un partito dove le cose vanno dette come stanno? No, però siccome la polemica qual è, ragazzi, capisci bene tu, allora due cose rapidissime, veramente, 40 non secondi. Non fare capanna, però, che non è capanna. No, ma poi la chiudiamo qui, perché secondo me è bello anche che alle 19.34 finisca una trasmissione di grande successo, perché non ha senso andare oltre. Cioè, ogni cosa che tu dici in più è inutile. È inutile, sì, esattamente. È quindi chiudiamola qui, che è molto bello. Linea alla regia, Marisoni, eccetera. Sì. La cosa è Marisoni questa: non c'è, siccome può tornare. Siccome Giachetti aveva detto in campagna elettorale che il lessico che si usa in politica è importante, si era presa con i grillini per il VAFA. Ma che cosa ha detto? Ha detto hai la faccia come il culo. Bene, lo conosco, hai so detto che hai la faccia come il culo. Irenica, pacifista, ma che irenica, radicale. La questione non è una, ma non è pacifista manco per niente, Giachetti. Il problema è una cultura diversa, quindi il turpiloquio in questo caso. Ma non è turpiloquio avere la faccia come il culo? Dov'è il turpiloquio, ragazzi? Ma state scherzando? Cioè, la dire polemica nasce anche da questo. Vado a Roma, il primo ad aver detto sempre cambiamo passo, cambiamo toni. Lascia perdere quello che uno ha detto prima. Giachetti. Scusami, hai visto? Adesso siamo in radio, no? Non è in televisione. No. Ma la faccia di Renzi. Sì, che si è messo le mani nei capelli. Sì, stava ridendo fino a qualche secondo prima, perché le argomentazioni di Giachetti erano forti. Appena Giachetti ha usato quell'espressione forte. Ragazzi, hai la faccia, visto la faccia, racconta agli ascoltatori. Ma chi se ne frega di quello che della reazione di Renzi? Si è disperato, si è messo le mani tra i capelli, quei capelli corti che ha, si è messo la pochi, mano davanti. Ce l'hai i capelli, Renzi? No, il problema non è a pochi. Ma ho capito, ma non è a pochi. Ho detto qui, ma semplicemente corti, ritiene corti i capelli. Ragazzi, se noi facciamo comunque passare era disperato. In quel ma chi se ne frega della reazione poi di Renzi? È scoppiata una bagarre, è anche irrispettoso rispetto no, invece a una parte del partito. Ma ragazzi, ma volete capire una cosa? Allora, di quella delle discussioni, cosa, però, ma guarda, che qualunque cosa mica ha detto con figlio di puttana. Allora, ragazzi, Scusami, David, allora, delle discussioni che ci sono faccia state... Faccia di bronzo, poteva dire, ragazzi. Infatti dai, l'ha detto dopo. Le discussioni all'interno di un par... delle discussioni che ci sono state non frega un cazzo a nessuno. Beh, insomma... Cioè, ma a te, alla gente normale, di quello che è successo in quei giorni là, dentro il PD, non gliene fotte nulla e soprattutto non si capisce niente. Il Mattarellum, il contro Mattarellum, quello che diceva prima uno, quello che diceva prima l'altro, tutte puttanate di cui alla gente non frega assolutamente nulla. Sono discussioni interne ai partiti, equilibri interni tra la minoranza, la contro minoranza del PD, cose inutili. Una cosa è venuta fuori, uno che ha detto all'altro in un'atmosfera finta, finta buonista, in cui tutti sono d'accordo, in cui uno ha detto: ragazzi, quello che dicevate prima è contraddittorio rispetto a quello che avete fatto, avete la faccia come il culo, che è un'espressione che a Roma si usa, Giachetti è romano, un'espressione romana che bisogna rivendicare, ovviamente detta una volta da un politico, se uno ne fa un uso continuo come ha fatto Grillo è un altro discorso, ma quello è una cifra politica. Giachetti l'ha detta una volta in un momento di grandissima verità, rinnegarla è un errore. No, ma quale verità? Poteva dirlo in modo diverso. Vabbè, è ragazzi, sull'espressione utilizzata, che perché offende una parte, Marco, del partito. Ma chi una se ne frega, ma meno male, almeno c'è la verità. Marco da Reggio Emilia, che ti frega, ma che sei del PD te? Ma io Marco da Reggio Emilia, no, ma, e dico, allora, Ma dico che in qualunque assemblea politica, ma non è la Camera, dai, su, è la cosa. Ha maggior ragione, gli hanno detto, siccome lui è vicepresidente della Camera, la Camera non avresti pure mai te accettato ad attaccare, un eloquio come quello. Non è vero, avete la faccia come il culo, viene detto in ogni circostanza. Dai. Cosa, ma non è qualunque cosa, non ha detto se è un figlio di puttana tagliatore di gole. Ma ci mancherebbe altro. E allora, Marco da Reggio Emilia ha detto hai la faccia come il culo. Ma guarda che è un suo compagno di partito. Oh, beh, allora dobbiamo tutti quanti. No, ma è, ma è incredibile perché mi pare Marco non sia un bel clima dentro. Ma quello si sapeva. Marco da Reggio Emilia, almeno è venuto fuori, no? Marco da Reggio Emilia, dai. Pronto? Buonasera, Crociani. Volevo intervenire sulla frase di Poletti. Io sono il padre di uno di quei ragazzi che è andato all'estero per cercare lavoro, per affrontare le sfide, per farsi una professione e realizzare se stesso. Mi verrebbe da dire delle cose molto offensive, ma non lo faccio. No, ma dimmelo, dire tranquillamente. No, no, ci mancherebbe. Io dico che nemmeno il partito fascista trattava così i propri emigrati. Cercava di creare le condizioni per recuperare queste risorse, queste forze all'interno per essere utili alla nostra nazione. Cioè, io tu dici, credo... Allora, Poletti in realtà ha detto una cosa un po' diversa da quella che se io non lo sto a difendere, secondo me è cioè, una follia quella che ha detto, soprattutto perché non si capisce, soprattutto perché 40... non si capisce il motivo. Cioè, ma, la retorica contro chi se ne va a favore di chi se ne va è sbagliata. È sconvolgente, con il 40% quasi di disoccupazione giovanile, con il resto dei giovani sottoccupati, con stipendi da fame che non riescono nemmeno a costruirsi una famiglia. Dire che non sentiamo la mancanza è veramente qualcosa di vergognoso. Non è degno di fare il ministro. Io spero che tutti i genitori, i familiari di quei ragazzi che sono stati costretti ad andare all'estero, ad affrontare pericoli, disagi, sacrifici al momento delle elezioni. Che lavoro fa suo figlio all'estero? Guardi, mio figlio è una persona per fortuna molto geniale. Oltre a essersi laureato alla Bocconi, ottimo, ha fatto università prestigiose. Cosa per fa? Cui, ma lui lavora nel campo finanziario, nell'informatica. Beh, è sicuramente una persona che si sta realizzando. Vabbè, non è all'estero. Che è andato all'estero per guadagnare i soldi, non è che è andato all'estero a farsi a fare l'operaio. No, giustamente ha seguito. È andato all'estero per cercare di realizzare se stessa. Sì, sì, va bene, ma perché arriva benissimo, ognuno può fare quello che vuole. Le faccio un esempio molto pratico. Alla Francia gli ha fornito borse di studio, condizioni di lavoro per crescere e realizzare le sue capacità. In Italia c'era zero, niente. No, ma allora, certo, ma non c'è dubbio. È vergognoso che un ministro dica queste cose. Dovrebbe dimettersi se ha un po' di dignità. Anche a mio parere, anche secondo me. Vergognarsi profondamente. Ci ricorderemo alle elezioni di quello che dice. Guardi, lei di solito che vota, scusi. Guardi, io sono una persona di sinistra, sono sempre stato di sinistra, ma con questo PD di incapaci, di persone che non prima di parlare dovrebbero riflettere, ma in realtà si lasciano sfuggire frasi assolutamente da persone. No, tra l'altro non si capisce nemmeno il significato, perché a un certo punto ha detto alcuni tra quelli che vanno all'estero è meglio, non ha detto tutti quelli che vanno all'estero, è un alcuni di questi conosco gente che è andata via e che è bene che stia dove è andata, non è che ha detto tutti. Dovrebbe specificare come me, come sì, ma infatti, ma infatti purtroppo fa il ministro, purtroppo fa il ministro, purtroppo fa il ministro, convengo con lei. E dunque diciamo dire che 100.000 giovani italiani in fuga dal paese, un bene non averli più tra i piedi, anche se ha detto conosco gente che è andata via e che è bene che stia dove è andata, va bene, quello d'accordo, poi anche infatti, ma poi infatti è un'uscita molto infelice, poi però ha detto non è vero che tutti quelli che sono rimasti sono dei pistola, cioè come dire, no, ma quello è giusto, quello esatto, è giusto dirlo, cioè quello come dire, non è che se ne vanno soltanto i migliori, ho capito, comunque ragazzi, ma comunque è una cavolata, dai, è una stronzata, dai, cioè, chi è voluto andare via diciamo è andato via per tanti motivi, chi per guadagnare di certo. più, chi perché, diciamoci la verità, l'Italia è un piccolo paese, non è che può competere con altri, di questo uno si deve rendere conto, in altri paesi ci sono più opportunità, cioè certo, anche suo figlio Marco sarà andato via perché in un paese ci sono, in altri paesi ci sono più opportunità, cioè, l'Italia è un paese che ha ucciso delle intere generazioni quello, certamente, di giovani. Non c'è dubbio, non c'è e dubbio. E questo è vergognoso, comunista, dica queste cose. Dovrebbe dimettersi per una frase del genere. Se ha un po' di dignità, ma penso che non ce l'abbia. Grazie. Perché uno non può avere dignità per avere dignità e dire queste cose. Ciao, ciao, ciao, ciao. Calogero, Firenze, vai. Sì, buonasera, buonasera, dimmi, Cruciani. Dimmi. Io volevo soltanto dire che quel signore che ha parlato prima, che certamente avrà le sue ragioni, però dovrebbe guardare un pochino l'Italia dal verso giusto. Cioè? Io sono un dipendente, non sono un imprenditore, lavoro da 25 anni ininterrottamente. Sì. E non c'è dubbio che in Italia ci siano problemi di lavoro, questo soltanto una persona imbecille lo può dire. Il ministro Poletti ha avuto un'uscita un po' infelice, ma le assicuro che in Italia di lavoro ce n'è a mai finire e hanno rotto i coglioni quelli lì che dicono tutti i giorni non c'è lavoro, non c'è dipende lavoro. Che tipo di lavoro, naturalmente. Dipende che tipo di le lavoro. Qui stiamo parlando di quelli che sono andati dei cosiddetti cervelli in fuga, cioè, a questo si riferisce tipo di lavoro, perché se io domani mi sveglio, voglio fare il giornalista, voglio inventare la Zanzara, sì, ma certo. Prima devo avere coglioni come ce l'ha Cruciani. Se invece sono un imbecille che vuole fare il giornalista, non diventerò Cruciani subito. Quindi la gente iniziasse un pochino da basso, come ho fatto io, come hanno fatto tanti, e poi se hai le capacità puoi diventare anche un top manager anche no, in Italia. Infatti anch'io non sopporto la retorica o quelli che dicono bisogna vogliono andare fare tutti all'estero. Gli architetti, tutti gli avvocati. Se sei un avvocato coi coglioni, inizi a lavorare in uno studio legale e vedrai che alla fine arriveranno le soddisfazioni. Io ho iniziato cioè, a lavare vuoi dire che alla fine c'ha ragione Poletti, non ho capito? Sì. Cioè, no, ma dai, certo che c'entra? È un bene non avere più tra i piedi certa gente che andata all'estero. Ma che cazzo vuol dire? Dipende da chi. Certi criminali che vanno all'estero, quelli no. è meglio non averli più tra i piedi. Io infatti ho detto che Poletti ha avuto un'uscita. Cioè, la frase un bene non averli più tra i piedi, che sia uno, che siano 10 o che sono 20, è una sciocchezza perché al limite si può dire gente che dice. Io dico soltanto che la gente che dice che in Italia non c'è lavoro ha rotto i coglioni. Vabbè, ma quello è un altro discorso, però. È un altro discorso, scusa, Calogero. Quindi Poletti, in un certo senso, ha ragione, perché tutto questo dire voglio andare lì per fare. Questo signore, l'analista finanziario, l'informatico finanziario, lo poteva fare anche in Italia. Beh, no, all'estero si guadagna un sacco. All'estero si guadagnano spesso un po' più difficile. Un sacco di quattrini su questo. Ragazzi, si sa che alcune piazze, da quel punto di vista, si permettono alle persone di guadagnare di più. Dai. Ciao, Rosario Palermo, vai, Rosario. E allora, io sono un cooperante internazionale. Ho lavorato tanti anni in Africa. E dopodiché mi sono dedicato ai Balcani. Allora? E ho avuto la fortuna di andare in Romania. Dunque? A Timisoara. Sì. E i locali mi hanno portato in un quartiere del Rom in cui avevano ville spettacolari, però loro vivevano nelle roulotte accanto al quartiere. Io domando a Parento che non si può fare sempre il politicamente corretto. In Roma hanno questa cultura del della rapina. No, ma io guardi, non sono perché politicamente corretto per nulla. Perché hanno organizzato un racket europeo. Mi spiace, io non sono politicamente corretto. Allora, per l'ascoltatore nulla. Sta dicendo, Rosario D'Abermo, no, sta dicendo, i Rom hanno la cultura della rapina. Il problema della dice. Legalità. Oddio, sì. Loro non la conoscono, non la conoscono. Riguarda chiunque. La prima cosa illegale sono i campi Rom, vanno chiusi, vanno superati, vanno trovate altre soluzioni. No, ma non è questo il problema. Non è questo il problema. Il problema è quello che non appartiene alla loro cultura. Sono 40.000 40.000 criminali tutti? No, sta dicendo Rosario. Sì, sicuramente qua, questo. Vedi. Io sono un cooperante. Ma Parenzo, mi perdoni, lei si è sfoccato mai nelle mani della merda nel Madagascar, in Sud America. Sta dicendo Rosario che sono potenzialmente, hanno una cultura criminale, giuso? Sì, hanno una, non crimine, hanno di approfittare del contesto in cui si trovano. Rosario, ciao, ciao, ciao. Ciao. Allora, caro Parenzo, quando Giachetti diceva a Speranza, stiamo parlando di due rappresentanti del Partito Democratico, per chi non lo sapesse, il signor Roberto Giachetti, vicepresidente della Camera, esponente renziano, diceva a un tizio che si chiama Speranza Roberto, che si candida pure pare alla segreteria del Partito Democratico, esponente della minoranza del PD. No, perché non è che tutti sanno queste cose. No, ha fatto bene. Bisogna chiarire com'è la situazione. Diceva un suo, diciamo, tra virgolette, avversario di partito. Hai la faccia, avete rivolto alla sua corrente, alla sua, come dire, no, al suo blocco. Avete la faccia come il culo. In quei momenti, credo, si trovava proprio lì un'altra importante esponente del Partito Democratico, caro Parenzo. Importante esponente. La signora Filomena Mastromarino, detta Malena la Pugliese, presente lì, come aveva promesso, all'Assemblea del PD, nel momento di massima crisi del Partito Democratico, a dare il suo contributo. Il contributo importante di una ragazza che lavora, appunto, di una ragazza che magari ma è stata anche offesa settore... è stata offesa anche dal ministro Poletti, per esempio. È una di quelle che è stata offesa dal ministro Poletti essendo andata a lavorare in Ungheria. Ma all'estero. Fa la pornostar, che è un lavoro come un altro, assolutamente. Malena, come stai? Salve, ciao, buonasera. Ciao, come buonasera, stai, cara signora? Bene, bene, bene. Appena rientrata, un po' stanca, però tutto bene. Stanca. Sei stata a Roma, Sei stata a Roma? Sì. Con il badge addosso, come si dice, con il permesso, no? Assemblea. Ma come, tutto a posto. L'hai ovvio. Conservato, come no? Come Filomena Mastromarino, non come Malena. Come Filomena Mastromarino, però ormai ti conoscono come Malena. Ma quante persone ti hanno riconosciuto? Quante hanno voluto fare dei selfie con te? Parecchie. All'inizio tutti un po' timidi, insomma, perché... Che ti guardavano, dicevano, ma è quella, ma è lei, no? Sì, è lei, non è lei, ma possiamo chiedere un selfie, eh? E poi via. Si sono sbottonati tutti gli altri. Si sono sbottonati tutti, non è bello da dire, Parenzo, no? Signora, scusa, ecco, non capisco. Non è una cosa bella da dire, si sono sbottonati. No. Senti, ma come sono? Cioè, qualcuno ci ha provato all'Assemblea del PD, cara Malena, dobbiamo ricordare che... c'era chi era seduto accanto a me che, insomma, ha fatto un po' di domande, però un po' di domande, diciamo... innocenti. In generale, facendo finta di non capire chi fossi, però, diciamo, che penso... Cioè, ma qualcuno ha chiesto il tuo numero di telefono? No, numeri di telefono no. Non te li hanno chiesti, anche perché poi non eri facilmente riconoscibile, eri un po' casta in quella situazione. E come? Ero occhiali... molto sobria, come sono sempre stata in quelle occasioni. Certo. Beh sì, certo, poi fa anche la pornostar, ragazzi, ma uno non deve essere per forza la pornostar che fuori va in giro mezza nuda. Ciao, no, Malena. Assolutamente, io non ho proprio questa immagine nella mia vita privata, assolutamente no. Giustamente, infatti, poi tu dici... Sono una ragazza normalissima. Ma che però fa la pornostar. Vuole ragazzi miei, non fate passare tutto per normale. Perché non per è normale, scusa. No, è normale. La signora dice io che... Io però facendo, non so se, voglio dire, andare magari all'assemblea del PD in questo momento di tensione, perché carità, lei fa un lavoro che è nobilissimo, è una classica fuga di cervelli, quindi va bene. Però magari un po' di imbarazzo, forse lo... lo crea, no? Anche ma perché la sua imbarazzo? Professione. Ma assolutamente, bene, perché dovrebbe essere imbarazzante? D'accordo, scusa, d'accordo. È come fare, che ne so, l'avvocato, giusto, Malena? Com'è la tua... È una professione, sì, è una professione a tutti gli effetti, certo, è una professione particolare che richiede una buona dose di esibizionismo, è una professione. Cioè, come, che ne so, il giornalista, il conduttore radiofonico, che ne so, come possiamo dire? Io credo che il PD abbia già tanti problemi, che forse, magari sono io bacchettone, per carità, ragazzi miei, non voglio dire nulla. Senti, ma sei dispiaciuta del fatto che Renzi non è più Presidente del Consiglio, tu che sei renziana, cara Malena? Ha preso questa scelta, ha mantenuto la parola. Ma ti dispiace, insomma, quindi... ti dispiace però? Mi dispiace, ti dispiace, però vorresti che tornasse. Coerente con le sue dichiarazioni, ha fatto quello che aveva detto che doveva fare. Cioè, ha mollato la poltrona, insomma, da un certo punto. Per cui, diciamo che da un certo punto di vista, sei continui a essere una sua tifosa. Sì, sì. Dunque, certo, vuoi che torni, che risorga come l'araba fenice, magari, no, o no? No. Senti, ma... o no? Vorresti che tornasse a Palazzo Chigi? Sì. Beh, ormai è iniziato questo percorso, continuerà sicuramente a dare il suo supporto, però vabbè, adesso non me fa la politica adesso. Senti, ma tu per caso conosci, cara Malena, che cos'è il Mattarellum? Ecco, sì, questo è importante. Cioè, che sai cos'è il Mattarellum? Mattarellum, però, che è una, non è quella cosa che magari... Vabbè. Lo so, infatti ho detto una parola, insomma, un po' particolare. Forse conosci il Porcellum, però. Tu sai cos'è il Mattarellum o no? Forse più il Porcellum, la signora. Sì, so cos'è, lo studio, lo vedo, però non è che poi sono così... Sì, ma cos'è sto Mattarellum? Cos'è? Cos'è un sistema elettorale proposto, sì. Capito? Cioè, Parenzo, questa ne sa di più di molte altre persone. È un sistema, magari non sa il dettaglio, non sa cos'è lo scorporo, diciamo, no? Insomma, ci vorrebbe qualcuno che si mettesse e spiegasse nei dettagli. Insomma. E il Porcellum, che cos'è invece il Porcellum? È l'altra alternativa proposta di sistema sempre. No, cioè, in realtà è quella che c'è, la legge, è sempre una legge elettorale. Sì. Cioè, tu sì, ti ricordi chi la propose il Porcellum? Cioè, chi è quello che propose il Porcellum? Te lo ricordi? Quel signore... Non me lo ricordo. Signor Calderoli. Signor Calderoli. Signor Calderoli, che in realtà chiamò così il Porcellum una legge elettorale. Però ragazzi, è così va la vita. Cioè, non c'è niente di strano, Parenzo. Tu vuoi far passare per strano la presenza di Malena, che diciamo ha girato delle scene di sesso anche molto hard, sesso anale, di tutto. Vabbè, con... Non occorre scendere nel dettaglio. Non è ancora uscito il film. Poi quando uscirà questo film? Perché dai queste indiscrezioni sul film? Beh, ma basta andare a fare Malena la Pugliese su, ragazzi. Su. Qual è mi interessa molto la trama del film. Qual è il plot? Io sono una ragazza normalissima, sì, insomma, che si rivolge a Rocco Siffredi, sì, per curare la sua malattia sul sesso, diciamo, non riesce a capire la sua sessualità. Il film si chiama Sex Analyst. Cioè, tu praticamente sei malata di sesso, praticamente, in questo plot, in questo non film. Non riesco a capire cosa mi piace nel sesso. Non riesce a quindi capire. Questa è la storia. La storia è questa, cioè, si e rivolge Rocco a Siffredi per capire come guarire analista dal sesso e come andare, Parenzo, e come andare, che ne so. Cioè, e come andare un vampiro all'Avis. Esatto. E come mettere un gatto alla guardia di un ristorante di pesce, se vuoi. Te la dico così. E infatti finisce a... Ecco, non vogliamo sapere il finale, per carità. No. Perché no, il finale sarà avvincente, certamente. Avvincente. Avvincente, direi io. Vedremo se riuscite a farmi capire. Ho capito, però, signora, ma c'è anche della suspense all'interno di questo plot, di questo film? Cioè... Scusi, no, aspetta, però al di là della suspense... che c'è di suspense? Che c'è? Sì, che certo, suspense c'è? Se scopa e basta, diciamo. Che suspense ci deve essere? Un minimo di storia. Beh, vedremo. Scusi, ma io voglio capire una cosa. Ma lei conosce il neo presidente del Consiglio, il signor Gentiloni? Sì, non lo conosco personalmente. Non si è voluto fare un selfie con il signor Gentiloni, no? No, assolutamente. Beh, no. E Renzi è riuscita ad avvicinarla a Renzi o no? No, non mi sono permessa proprio di avvicinarmi. No, no, assolutamente. No, per carità. Cioè, Renzi, no, però l'altra volta era andata a segno, diciamo, è sempre stato disponibile con tutti, cioè indipendentemente da chi fosse la persona, è sempre stato disponibile con i selfie, insomma. Quindi quando le l'ho chiesto mi ha detto sì, solo che in questo momento, insomma, ho preferito non avvicinarmi. Malena la Pugliese. Ecco. Ma quando lavorando a quale altro grande aspetta, film? Malena, quando Giachetti ha pronunciato quella parola, che hai la faccia come il culo, tu c'eri? C'eri? Sì, io c'ero. Che cosa hai sentito? Per te è normalissimo, ragazzi, o no? Cioè... Non è che è normale, ho detto che il partito sia, diciamo che non sono dei termini di uso comune. Insomma, vabbè, allora che hai detto? Il partito è diventato più moderno, diciamo, no? Però ho detto, che ne so, forse alla mia scelta ha smosso anche un po' gli animi, anche se... Cioè ho contribuito anch'io, sono io sicuramente. Come? L'esperta in quel settore sicuramente sono io al momento. Nei culi, sì, diciamo. Sono io l'esperta di facce come il culo, diciamo. Non di facce come il culo, ma di culi. L'esperta sono io. Però hai sentito un partito più moderno con quella frase di Giachetti, o no? Nah, sì, vabbè, alla fine è stata un'espressione molto colorata. Che però comune, pensare. Che tutti hanno capito, no? Sì, certo. Beh, ragazzi, ma ha ragione lei, non c'è niente da fare. Partito più moderno, però l'esperta di culi in quel partito, in quel momento sono io. Cioè, per forza. Ciao, Malena, ciao. Ciao, un David, saluto, omaggiala, omaggia Malena. Signora, buon lavoro. Omaggio. Ciao, grazie. Arrivederci, grazie. Signora. Ciao. Io amo la zanzara. Non penso più alla moglie, al lavoro, ma io... Penso solo e sempre alla zanzara. La zanzara. Ma vi rendete conto che all'orario in cui andate in onda vi possono sentire anche i bambini? Ma quanto schifo fate a prendere in giro un'anziana? Vergognatevi. Parenzo, in questi giorni c'è stata una luna piena stupenda. Indovina cosa ho fatto? Non ci arrivi, ti aiuto. Domanda ai tuoi amici rom della Valle del Mela. Il cacciatore ha colpito ancora! Allora, annuncio per chi ancora ci rompe le balle sulla vicenda della signora Rosina. Abbiamo chiesto scusa più volte, allora, lo faremo ancora comunque. No, ma se ci sarà occasione lo facciamo sicuramente. E rimane però il mio giudizio sugli indipendentisti. Sì, no, ma aspetta, c'è un altro elemento. Io su quello non cambio giudizio in alcun modo, sugli indipendentisti che hanno strumentalizzato. C'è un altro elemento da dire. Allora, ci rompono i coglioni e noi mandiamo in onda tutte le critiche che ci arrivano, come sempre, senza censura. Ma di cosa parliamo? Ma avete visto? Il titolo che ho fatto oggi sul libro non me ne frega niente. Oggi ho titolato "L'Oca del Campidoglio starnazza ancora, la Raggi si incolla alla poltrona". Non me ne frega niente. Let's go. Nessuno è il portavoce della signora Rosina, ecco. E di suo marito. Bravo. Nessuno Bravo. È. Si possono incazzare i parenti se ne hanno, Bravo. I figli. Bravo. Si possono incazzare loro. Abbiamo chiamato. Abbiamo chiesto scusa, lei ci ha risposto, ci ha anche cazziato, ci siamo presi il cazziatore. Poi ci ha perdonato. E poi ci ha perdonato. Ha detto "Ti abbraccio", sì, va bene, ma anche se non scusa, ma gli indipendentisti no, ma chiunque, non si permettano. No, ma chiunque diventa il portavoce, hanno fatto una manifestazione contro di noi, sotto sì, là con gli striscioni, Cruciani e Parenzo sì, infami. Ottimo, il signor Chiavegato, come per si carità, chiama? Lucio Chiavegato. Come si chiama? Uno che ha fatto i forconi, non so che ha fatto, un indipendentista Chiavegato. Chiavegato. Sì, Chiavegato. Ma sarà un nome di battaglia. No, dai. Ma per me va anche bene. Per me va anche bene, cioè uno può fare quello che vuole, signor Chiavegato. Sì, non c'è dubbio. Possono fare quello che vogliono, ma non è che possono fare i portavoce di cose. No, ma basta che non sia violento, perché invece no, ho letto commenti molto violenti. Ci vuole denunciare, sì, non so per che cosa, per... Per cosa? Ma per quale reato, ma non mi ricordo. Ma frega niente, ma me frega niente a me. No, per tipo... circonvenzione di incapace, una cosa di questo tipo. Ma lui bisognerebbe denunciare per quello, perché ha strumentalizzato il caso. Lui, non noi. Lui. La roba incredibile, guarda. Lui. La roba pazzesca. A parte che dare dell'incapace alla signora è anche fortemente offensivo. Circonvenzione di anziano, di non so. A parte che è molto offensivo se ha fatto la cosa, perché è un poveraccio, cioè uno che dice così che aspetta. Chi è adesso? Eccoci. Allora Flavio D'Arieti, vai Flavio. Oh, Giuseppe. Allora io volevo dire una cosa in merito alla frase di Poletti. Dai, dimmi. Ecco, per quanto riguarda, io sono stato uno di quelli che ha provato ad andare all'estero quest'estate e sono rientrato. Quindi la questione delle persone che vanno all'estero, che se ne possono andare, no? Come ha detto lui, cioè possono essere brave persone, possono essere cattive persone, come è normale che sia, come quelle che restano qui, penso, no? Ecco, quindi se comunque i giovani che se ne vanno è semplicemente perché se ne vanno da governanti come lui e tutto il governo, allora, che abbiamo... Allora, ragazzi, non è che la gente se ne va perché ci stanno i governi, i politici infami, luridi, e schifosi. Se ne vanno per la politica che non fa nulla, certamente. Certamente. Molti se ne vanno perché all'estero guadagnano 10 volte di più, perché ci stanno i mercati. Poi bisogna vedere chi se ne va e per cosa. Dipende da che lavoro, poi, ovviamente. Ma appunto, cioè, appunto, quello che dico. Cioè, vabbè, ma che vuoi dire allora, Flavio? Non ho capito. No, no, che appunto se i giovani se ne vanno è anche per lui, per il suo per governo, stesso. Per le politiche che ha fatto in questo Francesco, governo. Francesco, provincia di Ravenna, vai, Francesco. Dimmi. Francesco, Porta. Dimmi. No, è la prima cosa che volevo dire è che sono 3/4 d'ora che aspetto. Va bene, se hai aspettato significa che hai pazienza, altrimenti avresti attaccato al telefono e ti saresti incazzato con il mondo, oppure avresti detto questi qua mi fanno aspettare troppo, non voglio intervenire. Se sei qui, parla, non è che puoi parlare... No, la cosa che volevo dire è che... Sì. Solo due parole, che la conduzione è sgradevolissima. Sì, infatti hai aspettato tre quarti d'ora per dirlo. Hai aspettato tre quarti, hai sopportato tre quarti d'ora al telefono per dire questa roba qua. Sei sgradevolissimo. Sei veramente. Uno fa l'intellettuale di destra, che l'espressione intellettuale di destra è un ossimoro. A me mi fa orrore la stessa parola intellettuale. L'altro che mi fa orrore, che non so neanche come si chiama, che Parenzo si chiama. È una caricatura dell'intellettuale di sinistra. Sì, è una trasmissione ridicola. Beh, intanto grazie per aver chiamato, buonasera, benvenuto, ha fatto benissimo ad aspettare 45 minuti in linea. Sì, e ne è valsa la pena che lei dicesse questa cosa, perché ha dato un contributo anche alla trasmissione, cioè ha alimentato la porcinaia. Cioè, quindi grazie. Io non ho capito, questo qua ha aspettato tre quarti d'ora al telefono, facciamolo parlare, per carità, per sentire una cosa che non gli piace. Uno deve essere particolarmente masochista, uno aspetta tre quarti d'ora al telefono per dire questa trasmissione fa schifo, voi due siete uno la caricatura. No, Francesco, ma ci vuole della costanza in questo, no? Francesco? Pronto? Si è rotto i coglioni. Francesco, ma si sente però il rumore, signor Francesco? Provincia di Ravenna. Francesco? Francesco? Vabbè, vai a fare in culo, vai. Alfredo da Roma, dai. Pronto, buonasera, Alfredo Spolverini. Sì, tanto qui della gente che toglie le scarpe. Sì, Spolverini. Sì. Qui è capitato a Ciccio, perché io proprio... Sì, allora, vabbè, tu sei finto, ciao. Luca d'Ancona, vai. Luca. Sì, ciao Giuseppe. Dimmi. Ho chiamato perché volevo parlare della definizione di Giacchetti verso Speranza. Secondo me ha fatto bene, ha una faccia da culo e secondo me anche da sorcio. Comunque la faccia Vabbè, da che culo... Che cazzo vuol dire? Uno non è che guarda... No, ma che vuol sorcio, dire la faccia no, da culo? In che senso? Fisico? La faccia da culo? Esatto, sì, no, spiego. A parte che non è un'offesa, come dicevi tu, è un modo di dire, anche in Ancona si dice tranquillamente. Che vuol dire faccia da sorcio allora? Faccia da sorcio, no, un pensiero mio, c'è una faccia da sorcio, un'opinione diciamo estetica. Però faccia da culo ha fatto bene, perché come hai fatto bene anche tu a ricordare, lui una volta era renziana a tutti gli effetti del PD, PD Unito, e poi dopo un po' lui e altri quattro coglioni come Cuperlo, D'Alema, Bersani, sono praticamente hanno fatto i volta Gabbani, i traditori, e da Vabbè, ma questa appunto... qua è un'altra cosa. Tu hai un'opinione politica di quello, cioè, rispetto a quello che ha detto Giacchetti. No, ma io non sono nemmeno del PD, ma non qui... sono né della minoranza né del PD. Dico solo che ha fatto bene perché ha definito proprio in pieno quello che è un Speranza, faccia da culo, un traditore, volta Gabbana, e ha sbagliato solo a chiedere scusa, perché non è assolutamente un'offesa. E è un modo Va bene, di dire Fabio da Modena, vai, Fabio. Ciao Cruciani. Dimmi. Io veramente sono incazzato perché ancora continua persone a telefonare per rimproverarvi per la signora Rosina. Va benissimo, avete sbagliato, ok, detto fatto. Però il problema è, io vorrei sapere perché una persona che aggredisce una vecchietta, giusto, in casa insieme al marito, riscaldando il ferro e mettendoglielo in faccia, e agli arresti domiciliari. Io ho studiato diritto e voglio sapere come mai, perché la ratio dovrebbe essere quella che, essendo il soggetto pericoloso, il giudice... No, perché dice... lui, perché il giudice, nel caso di quel marocchino là, uno è scappato, l'altro è in galera, credo. Nel caso di quel marocchino, la difesa sostiene che lui avrebbe fatto solamente il palo. Invece pare che non sia così, e comunque stai sicuro. Perché in ogni caso il palo del responsabilizza, no, da quello che ha fatto l'amico. Ti sto spiegando il motivo tecnico secondo il quale questo qua è domiciliare. A mio parere, uno che ha partecipato ad un commando dove due vecchietti sono stati brutalizzati, c'è stato una rapina, rubate delle cose, andrebbero tenuti in galera per un numero, diciamo, cospicuo di anni, a mio parere. Sì, ma come dico, il magistrato, cioè io non, veramente, io ritengo che ormai siamo diventati un paese veramente fuori di testa, fuori di testa, veramente fuori di tu testa. Tu dici il magistrato che manda i domiciliari uno, ma non è che... Ma come sì, ma cioè, guarda, tu pensa solamente una cosa, se gli avesse dato un colpo di ferro da stiro in faccia e basta, e allora avrebbe dimostrato una violenza, ma il fatto di avere riscaldato il ferro e posizionato nella faccia dimostra che ha ragionato, ed essendo una persona che ragiona in questi termini, è sicuramente socialmente pericoloso, non dovrebbe stare agli arresti domiciliari. Chi cazzo è questo magistrato? Ma stiamo scherzando? Sì, ma che cazzo di Italia viviamo? No, ma tu hai perfettamente ragione. Cioè, io sono dell'idea che uno che ha commesso una cosa del genere, poi sai, le vie del diritto in Italia sono infinite. Non è che l'hanno scarcerato, i domiciliari, che è come stare in galera. Questo probabilmente tornerà presto. Poi ragazzi, però non è che ci possiamo lamentare che le carceri sono stracolme. Cioè, questo va ai domiciliari e spero che non esca. Spero che sia condannato e poi faccia 2, 3, 4, 5, 10 anni in galera. Non so, venga cacciato dall'Italia. Su questo non c'è dubbio. Dopodiché sta a 5 km da là, perché abita in quella zona là, ma va benissimo, cioè no, va malissimo, cioè... ma molto male, guarda, cioè io non riuscirei, guarda, lo trovo veramente fuori, cioè non... Poi tra l'altro non me ne frega un cazzo, si sposta anche il problema, a me non me ne frega un cazzo che è extracomunitario, poteva essere un italiano, è lo stesso, è assolutamente lo stesso. Va bene, ciao. Che mondo sarebbe senza la zanzara? La zanzara. Giuseppe, non sapevo che mia moglie ascoltasse la zanzara. Venerdì stavamo discutendo sul caso Fedeli e lei mi dice: basta, che palle, parli proprio come Cruciani. Io le ho risposto: beh, amica mia, siamo al top, eh? Siamo al top! Sgarbone incazzato con i magistrati. Non solo si incazza con i magistrati perché indagano i politici e mettono a repentaglio le amministrazioni Milano, Roma, eccetera, già la settimana scorsa, ma si incazza soprattutto con i magistrati che lo mettono sotto accusa per aver mandato a fare in culo, in sostanza, per avere preso a male parole i carabinieri in quel famoso episodio dell'Expo di cui ci siamo occupati lungamente, caro Parenzo, come no, certo, avendo noi praticamente fatto la sgarbeide in questa radio, no? Avendo seguito passo dopo passo le avventure personali, erotico barra professionali del professore Sgarbi, spesso condividendo anche lo spirito, se vuoi, garibaldino, sì, no? Non sempre, ma insomma magari. No, non sempre, io sì, io quasi sempre, tu meno, però insomma condividendo lo spirito garibaldino con cui affronta l'esistenza, diciamo. E Sgarbi se la prende con un giudice che si chiama Remondini, è quello che praticamente gli dice che lo mette sotto accusa per gli insulti ai carabinieri. Caro Ramondino, o come si chiama? Ramondini forse? Ramondini? Si occupi dei suoi valori e non dei miei. Si occupi dei suoi valori e non dei miei. I miei valori sono dimostrati dalla mia opera, dalle cose che ho fatto. Io sono stato bloccato, a nessuno ho resistito. I miei malumori, le mie parole, questi sono comportamenti da fascista, possono anche essere discussi, ma non meritano alcuna condanna, tantomeno morale. Io rappresentavo un valore di civiltà anche per lei, caro Ramondini, o come si chiama. E lei sappia che se c'è un modo perché la verità si affermi, io sono pronta a sfidarla a duello. A duello! Verità contro verità. Valore contro valore. Disvalore lo usa per altre questioni, non per me. Chiaro? Può darsi che io sia maleducato, ma certo meno di lei, certo meno di lei, che si permette di insultarmi sulla base del ruolo di pubblico ministero, al soldo del potente di turno che sarei io. Lei il potente di turno non lo dice a me, io non sono potente di nulla, sono potente solo delle mie idee e non sono un potente di turno. Lei usa il suo potere per abusare della verità. Quale potente di turno? Allora, tutto nasce perché questo Elio Ramondini è ricorso in Cassazione chiedendo l'aumento della pena Sgarbi è stato condannato a 5 mesi per violenze e minaccia a pubblico ufficiale, addirittura, che secondo lui non sarebbero mai avvenute naturalmente, ma nel ricorso del PM ci sono delle valutazioni secondo Sgarbi di tipo moralistico su appunto il potente, la maleducazione eccetera eccetera, e Sgarbi è incazzatissimo naturalmente, no? E chiede l'aumento della pena fino a 1 anno e mezzo, la grande guerra Sgarbi Ramondini, però non è bello dal punto di vista della tattica giudiziaria, no. Usare queste, geniale, cioè ecco. I signori della Cassazione potrebbero dire, io non so, è un consiglio che do al professore, cioè potrebbero dire, amico mio, ma però quando uno va in difesa spesso lo piglia in culo, quando uno non dice, cioè Sgarbi cosa pensa, un po' come l'avvocato Dormina, se tu stai zitto, che la miglior battaglia è l'attacco, dicevo io, difesa è l'attacco, sempre all'attacco, sempre all'attacco, sempre anche quando hai torto, attacca, perché invece rilancia, quando stai zitto dice no, teniamo la cosa un po' sotto banco, sì, cerchiamo di trattare, di mediare un po' così, alla fine potresti pigliarlo nel culo. Questa è la teoria sgarbiana. Cruciani, manda il traffico che devo fare un pompino. La Zanzara. Vi giuro che se mi arriva un'altra nota vocale, anche una sola, del mio fidanzato che mi canta i nani, vi denuncio. Denuncio non la radio, voi due singolarmente, Cruciani, te in particolare. Vi denuncio. Mario da Bologna, vai Mario. Ciao Giuseppe. Vai, dimmi. Niente, ti volevo dire a proposito dei, in generale, dei marocchini, che io non li sopporto, mi danno il disgusto. I marocchini, mi fanno orrore, sì, la loro cultura. Ma cioè, tu che qualcuno... cosa intendi per marocchini? Non ho capito, gli stranieri in generale oppure? No. Cioè no, i bello figo, diciamo. Ma non so neanche chi sia bello figo io, no, parlavo di questa cultura. Fate una cultura su internet, amico mio, vai su YouTube. Bello mio, purtroppo io non... Lavori dalla mattina alla sera, lo so, ho capito. No, non è che lavoro come una bestia, non mi lamento, però non mi piace guardare certa gente. So che conoscendoli, avendoli praticati... Ma non ho capito, che intendi come marocchini? Cioè, molti quella dicono... cultura... Quale diciamo, cultura? Del magrebina, degli opportunista... falsi. Ma che vuol dire? Cioè, non stai attribuendo la... Vuol dire che quando ti vedono sei un coglione per loro. Loro hanno il loro mondo. Ma, insomma, anche molti italiani ti considerano altri italiani coglioni. Che vuol dire? Ma non lo so. Cioè, lo perché so, però... ti fanno orrore i marocchini? Fanno orrore perché loro ci vedono come delle vacche da mungere, per lo ma più. Quanti luoghi comuni, ma quanti luoghi comuni, sempre. Le stagioni non sono più quelle di una volta, no, vero? Vabbè, senti, questo ma è il discorso, quanti però... luoghi comuni deve dire lei? Ma qua che cosa vuol dire? Se gli fanno orrore, gli fanno orrore. Ma cosa vuol dire? A me fa orrore mia, tu. Ma non è che... A me fa orrore lei, ad esempio. Mi fa orrore il luogo comune. Ma guarda, io che... non me ne frega proprio un cazzo di quello che ti fa orrore a te. Mi fa, capito? Che bello eloquio. Mi fa orrore il fatto sono, che uno guarda, dica io posso i marocchini. Io no, sono anonimo, Lund, che è un grande intellettuale, è un marocchino. Io non sono come te. Chi sei tu, Parenzo? Ma chi è lei? Ma cosa me ne frega a me? Quello che dice le puttanate, capito? Perché c'è l'immagine da difendere. Io non ce l'ho l'immagine da difendere. Ma dico quello si che... vede. Ho aperto questi due minuti. Lei detto, ma lei si rende conto almeno della cosa? Ma sai quanta gente la pensa come me? Ma io sono arrivato. I marocchini, ma cosa vuol dire i marocchini? Ma saranno le persone, non sarà il singolo, non un gruppo. I marocchini. Ma infatti ho detto la maggior. Allora io cosa dico? Allora io dico a me i calabresi. Ma dici come i calabresi? Sarebbe come dire a me i calabresi mi stanno dicendo, ma scusa, perché i calabresi? Anche a me, non mi piacciono tanti calabresi. No, ma a me non piace lei, ad esempio. A me non piace lei che ragiona per luoghi comuni. Ma che c'hanno i calabresi? Che c'hanno, per esempio? Perché tu vivi di queste cose qua. Lei vive di luoghi comuni stupidi. Perché i tuoi luoghi comuni filo governativi ti devono difendere, capito? La tua pagnotta. Ma quale pagnotta? Ma la pagnotta lei ce l'ha in testa, perché in testa lei a grano saraceno, capito? Ma te che ne sai, mai frequenti il popoloccio, quello ma che dire ma nel cosa basso, dice nelle case popolari, ma certo ci sono stato un sacco di volte a raccontarlo, ma che cazzo di, ma te dove vuoi vivere, ma che ne sai te, ma pare che io e te pensavamo le stesse cose, che in comune io e te abbiamo l'età, lo sai. Beh, ma che c'entra, pensavamo le stesse, te sei rimasto indietro, però ma che io vuol dire, non è che uno a tutti quelli di 40 anni la pensano allo stesso modo, che cazzo dici Mario? Beh, certo, ognuno fa un percorso. Cos'è che ti fa orrore? Io non ho capito, cos'è che ti fa orrore? Mi fa orrore l'integrazione. L'integrazione è impossibile. No, secondo l'integra... te. Non si integrano loro. Non si integrano. Ma loro chi è... poi? Non ho capito loro chi. Chi intendi? In generale, questi musulmani che vivono, i musulmani, omofobi, che vivono tra maschi, che ci tengono le donne chiuse in casa. Ma questo sì, questo certamente è un discorso. Adesso non già mi fa schifo, capito? Io se devo mangiare una pizza, io la mangio con una persona che ci faccio due chiacchiere. Non devo pensare delle... Non devo avere paura. Perché so, mica sei costretto a mangiare la pizza con un musulmano? Che vuol dire? Cioè... Sono sozzoni, la maggior parte... Ma sono sozzoni, dai. Ma ancora quelle generalizzazioni continuano. Ma non è lei, perché ha la testa zozza, lei. Lei ha la testa zozza. Lei è talmente pieno di pregiudizi che emana odore. Io lo sento, io sono a Milano in questo momento. Io sento puzza di quello che lei... Io sento, lei emana che emana cattivi pensieri e cattivo odore. Ma chi è sto scemo? Lei. Sente puzza da Milano, sei? No, lei, però io sento la puzza di quello che dice, perché lei dice delle cose banali e generalizza su gruppi di persone. Sembri mia figlia di 10 anni che dice ste cagatine qua. Ah, quindi sua lei tratta così sua figlia? Ho capito, guarda, lei è anche un pessimo padre, quindi togliamogli subito la patria potestà. Ma per esempio, i calabresi che c'hanno. Ma giudice, per cortesia, possiamo togliere la patria potestà a questo personaggio? Ma non ci permette. Ma secondo te io dico queste cose a mia figlia? Mia figlia la faccio crescere. Non gliele posso dire, quando le capirà a suo tempo. Scusami, spero, Mario, di farla crescere nei salottini. Ma lei, ma perché è così lei? Perché spero così di farla crescere nei tuoi salottini. Ma i calabresi, capito? Che c'hanno i calabresi? Ma che quali salotti? Hai parlato, male pure, hai parlato male pure dei calabresi prima. Ma che c'entro dei calabresi? Prima hai detto i calabresi, io non mi piacciono. Che i luoghi comuni sono dannosi. Sarebbe come se uno dicesse: a me i calabresi mi stanno dicendo. Ma perché stanno dicendo? I luoghi, luoghi comuni sono quelli che dici te, che sono tutti lei uguali. Lei ha esordito la telefonata alla radio 24. Ma normale, perché ci sono delle indicazioni culturali. Ma no, uno... zozzeria, perché? Scusa, una guida. Noi siamo gli africani in California e questi sono gli africani in Italia. Ma scusami, Mario, ma perché dici che sono zozzoni? Perché io lavoro in un settore dove vedo che settore come vivono, entro nelle loro case, sono cazzi miei. Ma che vuol dire sono cazzi tuoi? Che fai? Il venditore? Che fai? No, sono cose mie. Hai un'agenzia di pulizia? Ma che va bene? Devo parlare, ora ti devo raccontare la mia vita. Ma ho capito, ma amico mio, vieni a dire delle cose qui, entri qua dentro e noi ti faccio la domanda, che mestiere fai? Non è che fai il criminale, io no? Io dico che non te lo dico. E non me lo dire, pazienza, che te devo dire? Cioè, mediamente, statisticamente, sono veramente... Degli zozzoni. C'è di peggio, Vabbè. Anche gli italiani, per carità. E allora però perché dici che sono degli sono zozzoni? Sono molto sopra la media. Vabbè, ciao Mario. Ciao. Allora, Parenzo, a Ragusa, cosa succede a Ragusa? Un tribunale ha autorizzato il cambio del sesso all'anagrafe anche senza operazione. Praticamente tu puoi anche non fare l'operazione e puoi avere subito i documenti. I documenti, in questo caso è un ventisettenne, che noi chiameremo, non so se è il vero nome, Gilles, se non sbaglio, forse non vuole scoprire la sua identità, il quale credo che sia, diciamo, nato col corpo di un uomo. È un uomo, ma in realtà si sente donna e ha già cambiato, sta cominciando a cambiare, grazie a questa sentenza, i suoi documenti. Buonasera, Gilles, buonasera. Ciao. Come stai? Che stai, col viva voce? Sì, perché al momento ero in macchina. Comunque lo tolgo perché così mi fermo e parliamo un po'. Ecco, grazie Gil, così sentiamo tutti. Ok, senti ora? Sì, sento perfettamente. Perfetto. Questa voce squillante, diciamo una voce da donna, diciamo la verità. Una vera e propria voce da donna, non sbaglio? Fondamentalmente lo sono. Quanti anni hai? 27? 27 compiuti da qualche mese. Bene. 27 da qualche mese, i tuoi avvocati si sono battuti per ottenere questa sentenza del tribunale. Ma perché hai fatto il diavolo a quattro per avere questa sentenza? sentenza per poter cambiare i documenti, cioè ci tieni così tanto a cambiare i tuoi documenti e ad avere un nome femminile, a essere donna a tutti gli effetti? Certo, perché quando inizi un qualcosa, almeno io, quando inizio un qualcosa devo pur finirla, quindi non finisco soltanto con aver accettato i documenti, ma devo finire anche con tutte le altre cose. Senti, ma dunque vuoi cambiare sesso anche? Cioè, certo. Vuoi fare l'operazione? Cioè, c'hai, oggi c'hai il pisello, te lo vuoi togliere? Questa è la ovvio che sì, anche perché detto così, guarda, comunque sì. Beh, no, ma adesso lo dico in maniera comprensibile. Mi permetto talmente ininfluenti alle 20 e 25, ma anche per la mia vita futura, cioè non è un dettaglio che mi interessa, no, mi appassiona. Cosa vuole fare la signora, il signore, no, con ma i per suoi far per far capire alle persone, sì, che il processo non è solamente quello di cambiare, sì, di cambiare. No, poi vorrei anche anticipare che se magari dite la signora o signorina, magari è molto meglio, perché il signore non è che poi va così tanto bene la cosa. Cioè, nel senso che ti devo dare, che fai, la boldrinata? Lei, sono una donna. La boldrinata che ti devo dare di lei? Sì, no, per carità, ma va benissimo. Cioè, adesso se me lo ricordo, perché non è che mi può venire automatico. Beh, se non te lo ricordi, te mi dici com'è la cosa e io ti aiuto a ricordartelo. Sì, no, certo, no, per carità. Cioè, io intendo, quando dico tu, intendo una persona in generale, cioè sì, non è sì, che sì, non sì, è che voglio dire uomo, donna, eccetera, per, no, me non ha, per me non ha nessuna importanza, devi dire la verità. Se tu ti senti donna, e credo che tu ti senti donna nel corpo, no? Nel sì, corpo. Sì, ma nel corpo, nella mente, soprattutto nell'anima, ovunque. Ovunque. Non avrei combattuto così tanto se non lo fossi. Senti, ma da quando è che ti senti così donna? Perché poi uno ti sente al telefono e dice, vabbè, questa qua è donna, non c'è niente, cioè, da fare, è così, perché grazie, la voce è da donna. Questo è un complimento. Ma è una comunque questione ormonale, no? Credo. O no? Credo che sia più una questione mentale, emotiva, più che altro, perché lo sono sempre stata, quindi non lo so se magari dovevo esserlo e poi magari sono nata uomo e quindi in automatico dovevo diventare donna per forza. In ogni caso, comunque sia, ho fatto quello che era giusto fare. Ma i tuoi genitori come l'hanno presa questa storia? Che i miei genitori benissimo, cioè, mi sono sempre stati accanto. Cioè, comunque hanno capito subito che tu eri, cioè, che eri una femmina, non eri un uomo, diciamo, o no? Sì, sì, sì, sì. Quando è che ti sei manifestata, diciamo? Quando è che la prima volta si è capito tutto? Che io ricordi dall'età di 8-9 anni, così, sì, dalle scuole elementari comunque. Cioè, cominciavi a vestirti le solite cose, vestirsi da donna? No, alle scuole elementari non ancora, ma già alle medie sì, iniziavo a mettermi più delle cose da donna, ma non perché volevo manifestare il mio essere donna, ma perché lo ero. Quindi era un qualcosa che dovevo fare perché mi sentivo di farlo, non per far così carnevale a Rio. No, beh, certo, non per esibizionismo, tu dici, no? Sì. Cioè, ma semplicemente perché proprio ti sentivi di vestirti da donna. Senti, ma ecco, in Sicilia uno ha un pregiudizio, no? Magari, ecco, com'è che è stata vissuta questa cosa? Che ti dicevano? Che ti dicevano? Puppo, che ti dicevano? Sì, ecco, queste cose qua. Poi al momento in cui ho capito che sinceramente non ce l'avevano con me, ma ce l'avevano comunque sia con il nome maschile, che tra l'altro avevo, e con il sesso maschile, che tra l'altro loro sapevano, io lì per lì ho detto, boh, non è un problema mio, è un problema loro. E quindi sono andata oltre, fin quando oggi ci sono persone che comunque sia mi salutano e dicono ciao con il mio nome, sì, e a me fa molto piacere. Persone, uomini eterosessuali, che tra l'altro ti guardano e dicono sei una donna, ma mentalmente più che altro, quello è il migliore. Cioè, ti chiamano con un nome da donna adesso? Certo, con il mio nome da donna, sì, che tra l'altro non dico. Che non dici, però anche questo è strano, uno dovrebbe dirlo, perché non dovrebbe dirlo? Perché non no, vuoi rottura di coglioni? Perché non no, vuoi rottura no, di coglioni? No, no, no, sì, a prescindere di questo, poi tra l'altro tutta sta storia qua se è uscita fuori solo per il semplice motivo per dare modo ad altre persone nella mia stessa situazione di uscire fuori. Giusto, questo va bene. Vabbè, ma perché sì, ma questo ormai, diciamo, una grande battaglia di diritto. Ormai diciamo, io spero che queste cose qui siano abbastanza normali. Cioè, se uno si sente donna, se uno si sente donna, si sente donna, ragazzi. Sì, sì, quello sì. Però guarda, ti parlo da donna, perché giustamente sei un uomo, e ti dico che tu da uomo potresti accettare la situazione fino a un certo punto. Però al momento in cui mettiamo caso, dovresti innamorarti di una donna come me, ci metteresti due puntini, la virgola, e poi diresti boh, che ne so, che faccio, gli altri cosa possono pensare? Vabbè, per questo quello dico, sì, quello certo. Ma senti, ma tu hai fidanzati, cioè nel senso hai sempre sono single. Ma hai sempre frequentato uomini in generale, sì. Oh, allora, io ho sempre frequentato donne perché sono sempre stata una donna, però sono un eterosessuale e da sempre mi piacciono gli uomini, ma ho sempre avuto aspetta, quel problemino. Chiariamo una cosa. Allora, tu sei, diciamo, fisicamente sei un uomo, per cui quando frequentavi gli uomini a un certo punto, quando frequentavi, dico, le donne a un certo punto, cioè se stai, hai avuto anche rapporti sessuali con le donne? No, mai avuto rapporti sessuali con donne, per carità. Però hai avuto rapporti sessuali con gli uomini? Ovvio che sì. Perché ti interessano questi dettagli? No, per capire. Dunque, allora, hai avuto rapporti sessuali con gay, sostanzialmente? No, perché io sono una donna, sono un eterosessuale, quindi gli uomini che sono andati con me sono degli eterosessuali. Capito? È interessante, Parenzo, sì, cosa. Cioè, è andata lei, perché non lo so, se poi magari mi hai trovo... Hai ragione, lei. Lei? Da quelle parti magari non lo so come va a finire, se ancora mi continua a dire da lui, però... No, cioè che mi dai due botte in testa? No, lei. Lei che si sente donna ha cercato sempre uomini. Ovviamente all'inizio quando uno ti cerca vede un uomo però, o no? No, non vede un uomo. Vede subito una donna, appena parli, ti sei... però erano attratti anche dal fatto di questo, del fatto di quella cosa che hai tra le gambe. No, perché non hanno mai, non sono domande, mai arrivati. Come dire, no? Leggere. In che senso non ci sono mai arrivati, scusa? Ma perché non è una cosa sua, cioè nel senso, in un rapporto sessuale si fa un rapporto anale e si è finito lì. Per il resto le mani devi tenerle al tuo posto, perché già non l'accetto io, figuriamoci se devo darla pure a te. Beh, aspetta, adesso questo c'è la pubblicità, poi me lo spieghi bene questa cosa qua. Sì, importante. Aspetta, no, è importante perché non ho capito. Non ho capito bene. Adesso me la spiegano dall'altra parte, che mi sono un po' perso nel ragionamento, ma non è una presa in giro, figuriamoci. Guarda, io ho grande, non solo grande rispetto, ma ognuno penso che possa fare quello che vuole. E tu, se ti senti donna, hai fatto benissimo a fare questo percorso. Ma non se mi sento, io sono donna. No, se ti senti donna, se ti sei sentita donna, come ti sei sentita, hai fatto bene a fare questo percorso. Perché ti senti femmina, però non ti incazzare perché ogni tanto metto in dubbio questa cosa, semplicemente faccio solo delle domande. Ferma lì. Tana, what do you think about Cruciani? Brutto. Cruciani? Brutto. E Parenzo? Stronzo. Stronzo? Repeat? Stronzo. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta La Zanzara. I negri, li avete visti coi vestiti firmati, li avete visti con in mano un iPhone. Siamo al top. Allora ragazzi, una 27enne di Ragusa, autorizzata dal tribunale al cambio del sesso all'anagrafe, anche senza operazione. Volevo dirti questo, caro, la trasmissione di per sé è anche molto gradevole, perché sì, ha diversi questi stacchetti musicali, le voci, la gente che telefona, danni, caro Parenzo, questi personaggi anche strani che si trovano. Devo dire, no, strani, una persona normalissima, perché la devi definire strana? No, strana, la signora Gill. La non è strana, ma di queste storie, di questo spaccato di paese. Quindi nell'insieme è una trasmissione anche molto vivace, un unicum direi quasi, no? Nella radio italiana. Di sì, assolutamente. Ecco, no, volevo dire solo questo. No, ma è importante che tu lo sottolinei. Sì, volevo dire solo questo. La chiudiamo qui, che è andata bene così. Ma no, perché la dobbiamo chiudere qui, se ancora c'è tempo? Non no, ho capito. Ma è bella così. No, è bella. Ma tu l'avresti chiusa. Ma tu l'avresti chiusa anche 2 ore fa la trasmissione. L'avrei chiusa alle 18:34, certo. Ho capito. Perché, perché cambia tutto, improvvisa, no? Cioè spiazza. Sì, ormai purtroppo la gente pensa che la trasmissione vada dalle 18:34 fino alle 20:50. Ma è vero però. No, ma spiazziamo tutto, chiudiamo. Cioè, basta, chiusa qua. Va bene. Allora, però eravamo arrivati. Panettoni, non abbiamo parlato. Eravamo arrivati a un punto fondamentale nel racconto di Gilles. Ripeto, è questa ragazza, vedi come sono corretto, Gilles, questa ragazza di 27 anni, molto giovane, di Ragusa, dunque profondo sud, Sicilia, eccetera eccetera, che veniva anche maltrattata, diciamo, dai suoi ragazzi, dai suoi coetanei quando era piccola, e che si è sempre sentita donna e che adesso riesce a ottenere sui documenti e fra poco anche con l'operazione quello che aveva dentro sin dalla nascita, diciamo. Allora, Gil, allora, non è che sia fondamentale, però è importante. Cioè, sentirsi donna significa sostanzialmente sessualmente non usare il tuo pisello. Questa è la sostanza. Ovvio, giusto. Certo. Poi perché ognuno fa quello che vuole, giusto? Io da parte mia dico che è così. Cioè, quando esatto. Dunque, quando tu dicevi prima giù le mani, no? Giù le mani se qualcuno mi vuole toccare, praticamente un fidanzato, uno che tu ti vuoi sposare, ti vorrai fidanzare o no? Ah beh, certo, sì, se capita, sì. Se capita, sì. Dunque, nei rapporti, un sogno giusto, nei sogno, rapporti che hai avuto, tu il tuo, diciamo, tra virgolette, organo sessuale, non l'hai usato mai, più o meno? No, assolutamente, non è mio. È un regalo che mi hanno dato e devo toglierlo, devo ricambiare. Devo cambiare regalo, devo prenderne un altro. E come te lo senti? Quando fai la doccia, come te lo senti questo? Ma perché questo dettaglio? Scusami, perdonami. Dimmi, cioè. Lo lavo come lo lavi tu. Sì, no, d'accordo, ma te ne vorresti disfare, ce le vedi come un ingombro, come una roba, come una roba che non è utile, diciamo. Sì. Beh, non è che se fosse stato utile l'avrei usato, non avrei fatto tutto sto casino. Capito, Parenzo, cioè, è come una cosa che tu senti inutile, probabilmente non c'è nemmeno l'eccitazione sessuale. Mettiamo il caso che tu, a posto di avere quell'organo maschile che hai, avessi un organo femminile e ti sentiresti il contrario. Assolutamente, sì. Ma, cosa faresti? Che farei? Quel caso è un po' complicato, diciamo, se tu dici se mi sentissi, se volessi avere il pisello, diciamo, da donna, dici? No, se da uomo vorresti diventare donna, al posto, cioè, se da donna... ci sono molte transessuali, per esempio, che utilizzano, come sai, come utilizzano il... quella è la transessuale proprio, cioè io mi sono sentita donna e quindi sono andata oltre. Sì, è vero. Ma sembra una scelta anche... No, ma ci sono molte persone che in realtà conservano le proprie caratteristiche fisiche in tutto e per tutto. Non è il mio caso, sinceramente, anche perché conservandolo, che cosa serve? Lo metto sotto boccia con lo spirito? Cioè, perché tu sessualmente è proprio zero, cioè amorfo, diciamo, da quel punto di vista. Ma perché non è un qualcosa che è mio. Ma tu prendi gli ormoni, dunque magari ormai non si eccita nemmeno più. Ma io prendo gli ormoni, no? Dall'età di 14 anni. Per cui ormai non si eccita nemmeno più. Dal mondo, figurati. Non si ti piace questo dettaglio così? Mi piace molto i dettagli. Non è morboso, è la vita delle persone che mi piace sempre. Dunque, la realtà, prendendo gli ormoni, non ti ecciti più da quel normale, punto di vista. Certo, ma così come tutte le trans che prendono gli ormoni, quindi ne prendono. Beh, insomma, ci sono quelle che fanno le prostitute che in realtà poi vivono. Ma quello è diverso, perché magari fanno l'operazione del seno, certo. Magari non prendono gli ormoni. Certo. È vero. Ma tu come le vedi? Cioè, tutte queste trans. Cosa pensa, ad esempio, del Mattarellum? Questo è più importante. Guarda, io in tutta sincerità. La politica non te ne frega niente. No, della politica proprio, sinceramente, non me ne è mai fregato di nessuno lì. Che hai votato? Fanno quello che scavano voglio. No, non ho votato, ma non perché non volevo, ma anche perché andare là, se il signor puntini, gli do due pugni. No, il signor non esiste. Ma credi in qualcosa? Credi in Dio? Sei credente? Credo in me stessa. Dunque, non la Chiesa come la vedi? Come un ostacolo? Guarda, tra la Chiesa e Dio sono due mondi totalmente diversi. La Chiesa è una che tanto continuerà sempre a dare le proprie leggi, eccetera, eccetera, perché la Chiesa è come un altro Stato, dà delle leggi a modo suo, come fa lo Stato. Questo è giusto, però. Quindi, Senti, vuoi sposare in Chiesa anche, se capita o no? Ma se capita, sì, ma spero di non trovarlo un santarellino, perché no, altrimenti no. Va bene, ciao Gil. Signora, stia bene, viva la vita, viva la vita, forza Gil, donna, femmina, 27 anni, nonostante quello che c'ha e si vuole togliere, ciao. Ecco, questo è un bel complimento, ciao. Capisco perché a Parenzo non piacciono i dettagli. No, ma sai, chiedere i dettagli sono fondamentali, sono sempre alla signora cosa fa, cosa usa. Ma è normale, cioè, scusa, ma una persona che non frega niente. Ma mi invitate a parlare con una signora che vuole diventare uomo, ma non me ne frega niente. Oh, mi piace la figa, mi piace. Com'è che? No, ogni tanto dice anche. No, vero, puoi anche dire, non c'è problema. So che si è divertito moltissimo a sentire questa imitazione. Sì, direttamente. Ma non frega niente di questa roba, ma mi invita a parlare di come me ne frega niente. Allora, Angelo da Roma, vai, Angelo da Roma. Io vado ai matti perché c'è il ritorno. No, il ritorno, se vai matti, il ritorno dell'animalista Vassallo. Chi è Vassallo? Sai quello Vassalli, che Vassalli, Valvassini, Valvassoli, quello che fece, Medievo, no, ma Vassalli. Quello che fecero fece la manifestazione sotto qui da me, che poi io abbiamo fatto. Io conosco solo i Vassalli, Valvassini, dai, Valvassoli. Lo conosci, Valerio Vassallo, dai, su, che vuole boicottare Telethon perché dice che fanno la sperimentazione sugli animali, la ricerca. Signor Vassallo. Signor Valerio Vassallo, quello che è stato in galera per stalking alla fidanzata. Angelo Roma, vai. Sì, salve, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Vai, dimmi. Volevo intervenire a dire di quello che chiamavo. Non si sente niente, Davide dalla provincia di Como. Basta, via, tagliare tutto. Davide, sì, buonasera, mi secchi? Ci sono. Dai, Davide, dimmi. Volevo dirvi sostanzialmente questo. Io solito sono d'accordo con quello che dici, ma questa sera assolutamente no. Cioè? Quanto riguarda il discorso di Poletti, secondo me l'unico errore che ha fatto è dire quello che ha pensato. Io sono completamente, o quasi completamente d'accordo con lui, nel senso che ho 23 anni e lavoro a Cologno Monzese e ho 8 amici che studiano, chi studia e chi lavora all'estero, di cui 6 sono degli emeriti coglioni. Quindi devo dire che sono d'accordo con Poletti da questo punto di vista. Mi spiace solo che l'abbia detto, perché purtroppo... Ma che vuol dire? Tu conosci delle persone che sono degli emeriti coglioni? D'accordo. Sì. Ma che vuol dire? Ma coglioni frase... che vuol dire? Che ti stanno sui coglioni a te? Non che sono coglioni in generale? No, assolutamente. Ma sì, che cosa vuol dire? A me non stanno sui coglioni. Io devo dire che la frase che una parte di quelli che vanno all'estero, per fortuna che ce ne siamo liberati, purtroppo non ma scusami, è la verità, come una buona parte di quelli che rimangono in Italia. Ma cosa vuol dire? Ma rispetto a che cosa? Dice, ce ne siamo liberati rispetto a che? È meglio che stiano fuori rispetto a quale criterio? Un ministro lo dice, non è che lo puoi dire te, che dici conosco uno che sta a Londra, che è meglio che sia andato via dall'Italia perché è un imbecille. Ma cosa vuol dire? Non vuol dire nulla, non vuol dire niente. Certo che non vuol dire niente, ma poi detto da un ministro è completamente errato. Ma il fatto di dire vado a lavorare all'estero, come tanti fanno, perché all'estero è meglio, perché all'estero c'è lavoro, perché all'estero si guadagna di più, questa è una gran stronzata. Perché non è vero, perché io sono un caso emblematico del fatto che rimanere in Italia si può guadagnare bene, lavorare bene, e io tra l'altro ho trovato lavoro col Jobs Act e adesso lavoro a tempo indeterminato. Non è vero che in Italia non si può trovare lavoro. Ma chi dice il contrario? Ho capito. Quelli che se ne vanno fuori per questo motivo è bene che stiano fuori dall'Italia. Questo è il mio pensiero. Io sono d'accordo con Poletti se è questo che pensavo. Poi purtroppo l'ha espresso forse anche male, forse non doveva dirlo, forse se lo doveva tenere per sé. Ma in questo caso sono d'accordo. Va bene, Francesco da Bari, vai. Anzi, Stefano dalla provincia di Verbania, vai. Ciao Cruciani, ciao Parenzo, buonasera. Ciao. Volevo parlare per un fatto che sta accadendo qua sul Lago Maggiore per dei richiedenti asilo. Che succede? Che probabilmente verranno ospitati in un paesino a 500 metri sul livello del mare, qua sta nevicando, in un albergo fatiscente che è chiuso da 20 anni. Ora, questi immigrati dovrebbero arrivare a giorni, hanno scaricato... Adesso vedremo, dai, Stefano. Il fatto è che adesso è andata la notizia, che non so, che assolutamente non è vera, sicuramente, che ospiteranno una famiglia di terremotati di terra. Pazienza, va bene, ospita una famiglia di terremotati, va bene. No, allora... ma scusa, cioè, il problema è che questo albergo è da 20 anni fatiscente, cioè, capisci? Quindi allora? Sta cadendo a pezzi. Cioè, voglio dire, i terremotati vengono ospitati in un albergo fatiscente che assolutamente non è neanche previsto di servizi igienici. Ma lo metteranno a posto adesso, male, che cosa vuoi che ti dica? Cioè, lo metteranno a posto, dai. Gianluca da Roma, dai. Non è che hai ingiustizia, si deve sommare ingiustizia. Ma chi se ne frega? Cioè, nel senso, lo metteranno a posto. Se i terremotati vengono ospitati in un posto che non li può ospitare. Niente, chi se ne frega? Chi se ne frega? Me frega niente. No, qui ce ne frega, come ce ne frega questa roba? Come? Va bene, Gianluca Roma, vai. Grazie. Dimmi. Star Bengelun, non incontrerai mai due volte assolutamente identici, non importa la bellezza o la bruttezza, queste sono cose relative. Ciò sconvolto è simbolo della vita e tutta la vita merita rispetto. È trattando gli altri con dignità che si guadagna il rispetto per se stessi. Star Bengelun, cosa è vuol un dire poeta, questo, scrittore, saggista marocchino, principalmente noto, eccetera, eccetera. Mai detto di informarmi quando tutti i razzisti parlano dei marocchini. Ecco, se gli psicotici che con un po' di Depakin aggiusterebbero il problema che hanno con loro stessi, anche così al volo guardassero che cosa scrive Tahar Bengelun, questo odio diffuso per i marocchini, che poi potrebbe essere per gli zombie a quel punto, no, tanto psicosi per psicosi. Ma non ho chiamato per questo, scusate. Perché cosa hai chiamato? Non ho capito. Ho chiamato perché era una nota malinconica, da uomo di sinistra alla Baustelle. Sono stato un comunista, Parenzo, ho un sogno, una speranza, arrivederci, amore, addio. Ho dovuto votare, ho segnato nello stand della Lega, pensa tu, un grande compromesso storico, per il voto subito. Voi che ne pensate? Perché secondo me l'N... Ma non c'è bisogno italiano... di votare, non c'è bisogno di, no, di firmare, non c'è bisogno di votare negli stand per chiedere le elezioni subito. E le elezioni subito... Beh, però nel mio piccolo c'ho solo... Vabbè, d'accordo, ma insomma... No. Cioè, che cazzo serve firmare per elezioni subito? Cioè, non si potrà se raggiunge i 1500 che firme, fa? Che non, non che si succede? Può pensare a un referendum per votare subito. Ma non esiste il referendum per votare subito, non esiste, dai ragazzi. E quindi che fanno? Ma quindi faranno il cazzo che vogliono come sempre, faranno la legge elettorale probabilmente aprile, giugno, settembre, non so quando andremo a votare. Ma poi viva l'Unione Monarchica Italiana come partito. Per esempio Sgarbi potrebbe essere un buon presidente del presidenzialismo che aveva pensato Berlusconi qualche Vabbè, tempo fa. Ciao Gianluca, ciao. Abbiamo messo Crozza o no sul panettone vegano che rompono i coglioni? Mettiamo Crozza sul panettone vegano, eh? Devo fare una cosa, devo ringraziare Joe Squillo. Posso ringraziare Joe Squillo? Grazie Joe, perché la settimana scorsa è venuto a vedermi e mi ha portato un panettone vegano. Buonissimo. Senza zucchero, senza grassi, senza burro, senza gusto. Cioè... Quest'anno la Motta è stata simpatica, ha fatto una pubblicità in cui per il panettone prende per il culo i vegani e come ingredienti finge di usare tofu tritato, papaya, seitan e bacche di goji, no? Lui non l'avesse mai fatto, no? Lo spot del panettone Motta sfotte i vegani, scoppia il caos. La Motta è stata sepolta da messaggi, insulti, lettere minatorie, bastardi, rispettate chi fa scelte sane, è andata a fanculo, meglio il Pandoro. Allora ragazzi, dobbiamo dire una cosa molto semplice, io scherzavo l'altra volta con la Motta, ma pare che siano arrivati 200 panettoni sul serio, Parenzo. Quanto? 200 panettoni qui. Cioè 100 per te e 100 per me? Così sembra, 200 panettoni dalla Motta. Allora, poi la foto, 200 panettoni. Bisogna decidere. Li diamo in beneficenza. Sì, bisognerà darli in beneficenza. Allora ragazzi... Cioè bisogna darli alle mense dei poveri, esatto, bravo. Non ai migranti che arrivano. Tu ne dai 100 no, alle mense no. dei poveri di Roma, di Milano, e io a quella di Roma. Sì, però non a quelli che si occupano dei migranti, quelli che arrivano anche adesso. Tutti, no, certo, no. Rifugiati, allora, ai poveri, una parte di questi panettoni che io ancora devo vedere, mi hanno avvisato che sono arrivati 200 panettoni. Noi scherzavamo, abbiamo fatto quelle battute. 200 e tanto però, Ma sì, ma infatti non capisco come cazzo li hanno portati. Li hanno portato con un camion nell'ufficio posta qui al Sole 24 Ore, una cosa incredibile. Comunque ragazzi, l'intenzione è quella di darli. Certo, donarli. Non tutti, un po' me li bagno. Ma che ti vuoi tenere? I miei 100 li donerò tutti e li darò a chi? Un po' alla Caritas e poi a un'organizzazione non governativa che si occupa. Anzi, li farò mandare a Lampedusa, guarda. No, sì, sbagliato. Un po' no. alla Caritas di Roma. No. Un po' per tutti e qualcuno lo farò mandare chi alla c'è Lampedusa. Qua? Giuseppe D'Andria, che vuoi Giuseppe? Scusami. Che vuoi? Sono andato a sentire l'N perché aveva detto che c'aveva 300 ospiti, non c'era spazio, pari ed era invece... una cazzata colossale. C'erano 40-50 persone. Vabbè, allora? Di cui 3-10 erano suoi e quando parlavano soltanto quelli che erano amici suoi. Cioè stai dicendo che l'M è un truffatore? Che l'M è un truffatore? Insomma, diciamo io un paraculo da niente perché usa vabbè la... discussione lunga sull'M, ragazzi, a domani, ciao. Trovatevi un lavoro, cazzo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. Libera la voglia di fare.